Zanzara con Alessio Maurizi. Buonasera, 18:33 minuti, 800 24 00 24, come ogni sera questo è il numero verde per poter intervenire in diretta e raccontarci la vostra opinione. 349 238 6666, potete anche scrivere alla zanzara @radio24.it. come sempre iniziamo con i titoli del TG2. Firmato il contratto per Pomigliano con FIM, WILM, UGL e FISMIC. Soddisfazione di Marchionne. Sacconi ha vinto il pragmatismo, la FIOM per Mirafiori proclama 8 ore di sciopero. Porterebbe la firma anarchica di alcuni centri sociali l'attacco con 2 bombe carta alla sede della Lega Agemonio. Il ministro Maroni: vigliacchi non ci intimidiscono. Niente estradizione per il terrorista rosso Cesare Battisti. Il presidente brasiliano Lula: penserò a lui domani. In Italia, questa sarebbe la motivazione, rischierebbe la vita. Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essersi schiantato contro un albero a bordo di uno slittino sulle nevi del Bellunese. I genitori hanno dato l'assenso per l'espianto degli organi. Che roba, contessa, all'industria. Stasera partiamo dalla strettissima attualità. La FIOM proclama lo sciopero. A dire la verità non è una grande novità, dopo che è stato siglato l'accordo che la vede esclusa per Pomigliano, e alle spalle c'è anche l'intesa per lo stabilimento torinese di Mirafiori che la FIOM non approva. La polizia. Dobbiamo dire che la prima conseguenza che vediamo, almeno davanti ai nostri occhi, è quella di un Partito Democratico che si spacca come se ce ne fosse stato il bisogno, tra chi, come lo sentiremo più tardi, Sergio Cofferati, dice no, questo accordo non va bene, è antisindacale. Chi invece, come Fassino per esempio, dice no, no, no, questa è un'opportunità da cogliere. Sentiamo. È un accordo importante che consente un investimento che garantirà il rilancio dello stabilimento di Mirafiori e lavoro a 15.000 dipendenti Fiat dell'indotto. Non possiamo permetterci di buttare via questa occasione. A proposito di occasione, sembra che il leader di SEL, Nichi Vendola, voglia cogliere questa occasione di lotta per rilanciare il suo progetto politico. Sentiamo Vendola. Credo che bisognerebbe accettare la sfida di Marchionne, nel senso di reagire con grande radicalità, perché non è soltanto in gioco la condizione di vita dei lavoratori, è in gioco un'idea della democrazia, è in gioco l'idea che la democrazia non possa fermarsi davanti ai cancelli di nessuna fabbrica, né tantomeno di una grande fabbrica assistita con i soldi degli italiani e con i soldi dei lavoratori, come è stata sempre la Fiat. No, al di là di come ognuno di noi la pensi, credo che sia giusto che la Fiat ponga le sue condizioni in questi accordi separati, nati dalla libera volontà della Fiat e della CISL e della UIL e degli altri sindacati, oppure se ci sia qualche cosa che non va. Mi sembra giusto mettersi nei panni di, dei lavoratori, di chi poi lavora alla Fiat e in questo caso anche di chi come Landini li rappresenta, il segretario della FIOM, che appunto ha proclamato lo sciopero. Sentiamo. La gente, le forze politiche dovrebbero preoccuparsi del modello sociale che può venire fuori da un modello di competitività di questo genere. Per questa ragione noi abbiamo proclamato lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici il 28 di gennaio. Ci vuole forse una laurea in economia per sapere qual è questo modello di competitività che non va bene per poter aderire allo sciopero della FIOM. No, sto scherzando, però devo dire che... Insomma, a volte sembrano dichiarazioni un po' di routine, non so come dire, anche lo sciopero di 8 ore, non è che gli italiani non siano abituati, ne sono passati tanti, però se la questione è così importante, forse farsi venire un po' di fantasia a Landini per proporre qualche cosa di diverso che non lo sciopero. Quali sono i motivi per cui la FIOM è contraria? Sentiamo. Siamo di fronte a un atto antisindacale, antidemocratico e autoritario della Fiat che non ha precedenti nelle relazioni del nostro paese. Si vuol far passare l'idea che bisogna cancellare i contratti, i diritti, addirittura cancellare le libertà sindacali e la FIOM dalle fabbriche per fare gli investimenti. è un atto antisindacale, un atto antidemocratico. Anche qua forse uno si aspetterebbe di sentir parlare della condizione di vita e di lavoro delle persone che lavorano alla Fiat piuttosto che di temi come il sindacato o la democrazia. Migliorerà o peggiorerà la condizione dei lavoratori dopo questo investimento, per esempio a Mirafiori, di 1 miliardo di euro che consentirà di mantenere la produzione a Torino? Sì, ma a certe condizioni un po' più stringenti, perché la Fiat vuole avere questa possibilità. Questa forse è la domanda da porsi, ma Landini sembra più interessato alla questione, anche qua, sindacale. Se la prende con la Fiat, che avrebbe inventato dei sindacati nuovi per, in questo accordo. Ed è la Fiat che ha deciso con quali sindacati fare gli accordi. Addirittura si è inventata il sindacato dei quadri, si è inventata sindacati che non si capisce chi rappresentano e hanno lo stesso valore di tutti gli altri sindacati, e tutto questo è fatto per cancellare la Fiat. Sembra quasi che il problema sia cancellare la FIOM. Se c'è questa intenzione, che naturalmente è sbagliata da parte della Fiat, allora Landini ha ragione, ma se invece l'intenzione è un'altra, allora forse Landini la mette in un modo un po' difficile da capire per chi non è dentro le questioni sindacali e per chi, come un cittadino qualunque, vuole giudicare questa questione legata a Mirafiori. Chiudiamo con un'altra voce di Landini che fa una proposta, dice: andremo nelle piazze, nelle strade, quindi non solo manifestazioni, ma anche cercheremo di farci capire dai cittadini. Noi lanceremo anche una raccolta di firme in tutte le fabbriche nel paese, proprio per difendere il contratto nazionale, per difendere le libertà sindacali, e nel mese di gennaio metteremo in campo in tutte le città anche azioni per informare, per discutere con presidi, con tende. Chiederemo di essere ricevute dalle forze politiche e chiederemo di poter parlare in tutte le assemblee elettive del nostro paese, perché siamo in presenza di un attacco alla democrazia e ai diritti che non ha precedenti. Che cosa dice la Lega? La Lega che a ogni elezione si va a vedere il suo insediamento elettorale, votano gli operai per la Lega. Che cosa dice la Lega? Bossi. Si hanno accolti anche i sindacati, vuol dire che qualcosa da cambiare c'era. La cosa più grave sarebbe che la FIA se ne vada via. Il decente è che la FIA vada all'estero. Fin quando resta qui possiamo trattare. Adesso è superare il momento difficile. Ho giocato 3 numeri all'otto, 25, 60 e 38. Pensa un po'. I numeri sono quelli del governo. Abbiamo sentito ancora ieri un Berlusconi che si diceva ottimista perché i numeri del governo sono assolutamente aumentati, e i numeri della tenuta della maggioranza dopo il passaggio stretto della fiducia a fine dicembre, e questi numeri non sono gli stessi che ha Bossi, che dice invece no, i numeri scarseggiano. Bossi. Speriamo che per lo scorso sentito la televisione parla di grandi riforme, parla di numeri in eccesso, no? Per me è esattamente così, i numeri sono proprio quelli che scarseggiano e quindi siamo un po' nella palude, però siamo ancora vivi, stiamo combattendo. Insomma, l'audio non era granché, però si capiva, siamo in una palude, a volte la palude era palude romana, a volte è una palude più generale a cui si riferisce Bossi, ma insomma lui non è così sicuro dei numeri. E va bene, e questo è un po' anche il gioco delle parti all'interno del governo tra Bossi e Berlusconi. 18:42, 800 24 00 24, tra poco cominceremo anche con i vostri interventi, voglio però prima salutare Sergio Cofferati, buonasera. Buonasera. Europarlamentare del Partito Democratico, ex segretario della CGIL, firmatario tra l'altro di un appello proprio in questi giorni, come dire, a difesa delle posizioni della FIOM, dei lavoratori metalmeccanici, dal vostro punto di vista, contro questi accordi di Pomigliano e di Mirafiori. Le voglio chiedere, prima di un giudizio di merito, andiamo già con le sfumature, perché contano, Cofferati. Vendola parla, Nichi Vendola, di ritorno di schiavismo. Di Pietro ha detto c'è il ritorno del fascismo nelle fabbriche, sono espressioni forti. Lei che dice? Il fascismo è un'altra cosa, e lo schiavismo pure. C'è un ritorno al passato piuttosto robusto, del tutto evidente. Si stanno ripristinando condizioni che nelle fabbriche della Fiat, per la verità, non sono nuove. Questa Fiat moderna a me ricorda moltissimo quella di Valletta degli anni 50. siamo ritornati lì. Guardi, lei chiedeva prima agli ascoltatori, ma bisognerebbe capire se sono mutate le condizioni di lavoro delle persone. Sì. Sono mutate, sì. Dovranno lavorare di più. Poi lei mi può anche rispondere, è giusto che sia così, ma intanto si sappia che questi accordi riducono le pause delle persone e invece di aumentare l'utilizzo degli impianti, insieme a questo aggiungono anche un maggior lavoro per le persone. E poi, che piaccia o no, ci sono violazioni di diritti sanciti in precedenza, perché vede, l'accordo di Mirafiori è più brutto di quello di Pomigliano, perché stabilisce che chi non firma l'accordo non ha i diritti previsti dal contratto. Però contratto questa, che viene sostanzialmente abolito, perché a Mirafiori come a Pomigliano non ci sarà più il contratto nazionale, ma un contratto ad hoc per quelle aziende. Però questa è come se Berlusconi in Parlamento, per chi non gli vota la finanziaria, gli sospendesse il finanziamento ai partiti oppure gli impedisse di presentarsi alle elezioni successive. Via, mi pare troppo. Io penso che è una cosa di buon senso. Alla lunga escludere il principale sindacato dei metalmeccanici non sarà possibile, però non è questo un passaggio obbligato, io ho letto così, della normativa, per cui essendo un contratto, il primo contratto, non essendo firmato dalla FIOME, non ci sono precedenti, quindi non c'è un automatismo nella mancata rappresentanza. Io ho letto questo. Ma no, nemmeno quando c'erano le commissioni interne, lei non ha l'età per ricordare, io un po' sì, perché sono arrivato a lavorare nel momento del superamento delle commissioni interne, quando c'erano in azienda, come nei contratti nazionali, accordi separati, veniva levata la possibilità di eleggere i propri rappresentanti alle organizzazioni che non firmavano. Ma lei si mette nelle condizioni di chi deve rappresentare delle persone che lavorano e va a trattare, e quello che sta dall'altra parte gli dice: se non firmi il contratto tu non avrai diritti. Le pare che a quel punto la trattativa sia messa in condizioni neutre di parità? Mi pare che siamo di fronte ad una novità per i tempi attuali, è assolutamente fuori luogo, è un errore. E guardi che questo problema, anzi questa soluzione, sta creando molte tensioni anche tra le imprese, perché le imprese, quando devono riorganizzarsi, hanno bisogno di interlocutori forti, non escludono dal tavolo del negoziato l'interlocutore maggiore. Certo, e credo che anche per questo la Confindustria stia lavorando per ricucire, per allargare l'area e per evitare che si creino sbavature da questo punto di vista. Mi pare che fin qui Confindustria abbia subito l'iniziativa della Fiat. Trovo Confindustria non soltanto molto debole, ma particolarmente arrendevole nei confronti della Fiat. Beh, però questa non è una novità, per carità, però... Questo è il suo punto di vista, ma è legittimo, certo, naturalmente, ma mi pare che per esempio alla proposta del segretario della CGIL Camusso, Confindustria abbia risposto positivamente sul tavolo allargato. Però questa è un'altra cosa. Lei parlava delle pause. Io qui ho un articolo di Repubblica di oggi che fa una panoramica sulle situazioni nelle altre fabbriche europee. Ci sono alcune cose interessanti, però facciamo un attimo una pausa. Il traffico, poi rientriamo e le commentiamo con Sergio Cofferati. C'è già qualche ascoltatore al 349-238-6666 che mi invita a lavorare per un mese in fabbrica prima di potermi esprimere. Naturalmente stia lì, faccia il suo mestiere, non dire. No, è ovvio che, io l'ho detto, bisognerebbe mettersi nei panni di chi queste condizioni le vive e capire. Ecco perché ho fatto anche qualche critica a Landini sul fatto di come si esprime, che parla di una questione antidemocratica, antisindacale. Avrà naturalmente le sue ragioni, però da chi cerca di capire come cambiano le condizioni di lavoro, la competitività o anche semplicemente le condizioni di lavoro delle persone, mi aspetterei forse ragionamenti più concreti. Però dicevamo delle pause. Io leggo, appunto, ripeto, un articolo di Repubblica di oggi che dice: l'unico stabilimento in Europa nella produzione metalmeccanica o dell'auto, non so esattamente se sia in generale o solo sull'auto, che fa pause più meno lunghe di quelle di Fiat è uno stabilimento di Barcellona che ha 45 minuti, gli altri fanno tutte pause di meno di 30 minuti, che era quello da cui partiva Fiat. E no, così... ma lei sta bene a fare questo raffronto, però se no, vogliamo perché, far capire a chi ci ascolta come stanno le cose. Perché sennò sembra al che tempo, l'Italia sia in una condizione di... particolare, invece no, forse non no, è così. No, ma lei al tempo di lavoro deve affiancare anche la retribuzione. L'operaio tedesco che lavora in un'azienda dell'auto guadagna il doppio di quello che guadagna un operaio italiano. E le aziende tedesche sono molto più competitive di quelle italiane. Non sono quei 10 minuti, lo dicevo perché comunque il lavoro dei dipendenti di Mirafiori aumenta, poi come l'ho detto non sono 10 minuti che cambiano il corso della storia, aumenta a parità di retribuzione, dunque la retribuzione oraria cala. Se la matematica ha ancora un senso. Io invece ho letto dichiarazioni di, non mi ricordo più quale sindacalista, credo della UILM, che sul Sole 24 Ore online di oggi, ma l'intervista forse di ieri, faceva proprio il conto sulla base di, del recupero di quei minuti persi per la pausa, cioè lavorati in più, e che invece verrebbero monetizzati e porterebbero in tasca qualcosa agli operai. Invece lei dice di no, non è così. No. Considero questo un aspetto importante per far comprendere a chi ci ascolta di che cosa stiamo parlando, ma non è questo il tema principale. L'azione che Marchionne ha messo in campo, dunque la Fiat, non Marchionne persona, l'azienda è molto chiara. La Fiat pensa di vendere le sue auto riducendo costantemente i costi della produzione di queste auto e lo fa ridimensionando tutto quello che può, compresi i diritti delle persone, perché i diritti hanno un costo. E allora taglia anche quelli. Se quest'anno in Europa l'immatricolazione delle auto è calata per tutti i produttori, ma per la Fiat è calata di 15 punti in più, io credo che il problema della Fiat non sia quello del costo del suo prodotto. Non mi risulta che le auto della Fiat costino molto di più delle altre. Forse c'è un problema di qualità, perché gli altri mettono più modelli sul mercato, perché gli altri sono in grado di innovare le loro produzioni più rapidamente di quanto fa la Fiat. E la Fiat non sfida Volkswagen su quel terreno, faccio meglio di te, la mia qualità sarà più alta. La Fiat cerca di ridurre il costo delle auto che fa. In questo modo, inevitabilmente, incrocia anche il tema dei diritti e delle protezioni delle persone, che siccome hanno un costo, la Fiat cerca di ridimensionare. È una strada sbagliata, secondo me. Lei ha citato la Germania, no? E parlavamo anche degli altri paesi europei. Non crede che a fianco alle rivendicazioni che il sindacato fa legittimamente dal suo punto di vista nei confronti di Marchionne e della Fiat, non si dovrebbe chiedere anche un intervento di regolamentazione o anche di non far ricadere tutte le condizioni della competitività solo sulla componente, questa è la mia personale opinione, solo sulla componente dei lavoratori e del salario, ma anche sulle altre questioni che fanno la competitività di un paese, le infrastrutture, la questione fiscale. Sono d'accordo con lei, ma guardi che nel 2000 l'Europa a Lisbona propose alla discussione di tutti i paesi, con il trattato che venne firmato, un'idea di competizione alta, un modello cioè che aveva come centro, come cuore, la conoscenza, l'innovazione, la ricerca. Il governo italiano, il governo di adesso, di queste cose non tiene in alcun conto, basta vedere cosa succede nelle scuole italiane, a cominciare dall'università, oppure vedere quant'è il rapporto della spesa per ricerca sul prodotto interno lordo. Ecco, ma perché queste cose Landini non le dice e parla di una questione antisindacale, antidemocratica? Secondo me dovrebbe parlare di questo. Ma no, ma lei si mette nei panni di Landini, scusi, è il segretario della FIOM. L'accordo che hanno firmato gli altri esclude la FIOM per i prossimi anni da un'attività normale a Mirafiori, ma le pare una scelta... Guardi, lasciamo perdere per un attimo democratica, è antidemocratico, ma non voglio parlare di questa. Non è sensata, è un danno per le organizzazioni che hanno firmato, perché potrebbe toccare anche a loro la volta prossima. Che ci sia un danno su questo io sono personalmente d'accordo, però penso che sia un danno anche per l'azienda, però che, ma non si che possa dipendere di questa natura a chi rappresenta delle persone che lavorano. Però Cufferati, c'è chi dice è la FIOM che si esclude perché ha un interesse più politico, per esempio a schierarsi in manifestazioni con gli studenti o in altri terreni più politici che non sindacali. Questo viene detto. In queste vicende non c'è nulla di politico, sono vicende banalmente sindacali. Le dirò di più, secondo me la FIOM nei negoziati ha anche un atteggiamento molto responsabile, addirittura moderato. Guardi che in altre, lei tolga la Fiat. Però è un caso importante e mi pare che anche il segretario della CGIL, che la segue di due mandati, Camusso, stia cercando di spingere la FIOM a un atteggiamento più conciliante, più positivo, a chiudere contratti e non a rifiutare di chiudere contratti. La FIOM firma accordi in continuazione. In queste ultime settimane, in Emilia-Romagna, addirittura la FIOM ha firmato accordi da sola, scatenando la reazione della CISL, che quando firma lei non ha grandi problemi, quando firmano gli altri senza di lei si innervosisce, giustamente, ma dovrebbe farlo anche nelle altre circostanze. Dunque la FIOM fa accordi, il problema è la Fiat, dove il sovraccarico politico messo dall'azienda, che si pone come modello e per questa ragione vuole uscire da Federmeccanica, vuole uscire da Confindustria, non applica più il contratto nazionale, è lì che le cose vengono poi sovraccaricate di significati politici, perché la Fiat vuole offrire un modello a tutti gli altri. La FIOM questa pretesa non ce l'ha, non vuole fare della Fiat il luogo dove si fanno gli accordi mitici storici, no, vorrebbe fare delle cose normali, mi pare. Veniamo invece a qualche conseguenza politica che la riguarda, perché sembra anche in queste ore, a guardare le dichiarazioni degli esponenti del suo partito, del Partito Democratico, che ci sia un ventaglio di posizioni da chi come Ichino sposa la linea Marchionne, in parte anche Fassino, anzi sicuramente, lei è molto più critico, il responsabile economico Fassina ha cercato di fare dei distinguo. In che modo il Partito Democratico su questioni economiche che riguardano i lavoratori, che dovrebbero essere centrali per la vostra proposta politica, può affrontare passaggi come questo, essendo sempre continuamente diviso, Cofferati? Discutendo, se un limite vedo è che la discussione avviene a posteriori, avviene dopo la firma di un accordo controverso, queste cose andrebbero definite prima. Un partito deve avere una sua linea autonoma sui temi della politica. Cioè, secondo me il problema è liberi tutti, ognuno dice la sua, invece ci vorrebbe una linea e seguire quella, ma il problema forse è che una linea non c'è. No, non i liberi tutti, perché che tutti presentino le loro valutazioni lo trovo giusto. Dico che su questi temi occorrerebbe avere un orientamento ben definito attraverso una discussione nella quale tutti si impegnano, ma averlo prima, non fare una discussione come quella che stiamo facendo inevitabilmente dopo un accordo. I temi poi alla fine sono due. In un paese come il nostro, qual è il modello di competizione che si sollecita al governo e alle imprese? È il modello di competizione dove la qualità fa premio o è quello dove per stare sul mercato si sceglie di togliere 10 minuti a chi lavora di pausa, oppure gli si nega il permesso sindacale, non gli si farà fare l'assemblea perché non gli si dà quel diritto? Io sono per il primo. Senta, il secondo non porta da nessuna parte. Se il PD fosse stato al governo in questo momento, in questa situazione, con questo passaggio di contrattuale, si sarebbe comportato diversamente? In 30 secondi glielo chiedo prima di chiudere, rispetto al governo attuale. Sì, c'è una cosa che il governo non ha fatto. Guardi che quando Obama ha dato a Marchionne la Chrysler con relativi finanziamenti, ha messo tanti soldi Obama, ha preteso da Marchionne di discutere che cosa avrebbe fatto della Chrysler. Il governo italiano della Fiat si disinteressa. Non c'è una politica industriale. Siamo stati per mesi e mesi senza il responsabile della politica industriale. La devo salutare. Un governo di questo nome sceglie di confrontarsi con i suoi interlocutori. Grazie Sergio Cofferati per essere stato con noi. Buona serata. GR, torniamo subito dopo. La zanzara. 19:17 minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori, 800 24 00 24. Tra poco cominceremo a sentire anche le vostre telefonate. Nella prima parte abbiamo dedicato ampio spazio alla questione Pomigliano, all'accordo firmato con la FIOM esclusa. Abbiamo sentito Sergio Cofferati. 349-238-6666 per i vostri sms, la zanzara è radio24.it. Allora, adesso come sempre, informazioni TV, Sky TG24, titoli. Fiat, arriva il sì dei sindacati, siglato l'accordo su Pomigliano. Per Sacconi è un punto di svolta, la FIOM proclama uno sciopero per il 28 gennaio. La sinistra è divisa sull'accordo e su Mirafiori, polemica tra i sindacati. Gemonio, due bombe carta contro la Lega, Maroni, non ci faremo intimidire. Rifiuti a Napoli, Berlusconi, qualcuno ci ostacola, tornerò in campo personalmente. Futuro e Libertà, dure accuse alla Giornale, a Libero, Fini pronto a querelare. Rapporto Istat, rischio una famiglia su tre in caso di spese impreviste. Airat, Sky TG24 coi soldati italiani tra attacchi continui e opere di ricostruzione. Leonardo si presenta all'Inter, volevo una sfida e questa è la più grande. Cartoline d'Italia dallo spazio, le foto di Paolo Nespoli dalla stazione orbitante. Tra poco faremo un esperimento alla radio, ci collegheremo con la redazione di un programma particolare di, ospitato da una radio toscana, Punto Radio, ne parliamo tra poco, prima titoli del TG3. Firmato il nuovo contratto per la Fiat di Pomigliano, 4.600 assunzioni, la FIOM proclama lo sciopero di 8 ore il 28 gennaio. D'Alema, l'accordo Fiat è accettabile, ma non si può escludere chi dissente. Landini? Nemmeno lui lavora alla catena di montaggio. Bossi, al governo mancano i numeri, siamo nella palude. Berlusconi, maggioranza limitata alla Camera, ma ci saranno presto nuovi arrivi. Due ordigni artigianali esplodono davanti alla sede della Lega di Gemonio. Lievi danni, nessun ferito, Maroni, non ci faremo intimidire. Una famiglia su tre non sa come far fronte a spese impreviste e aumentano quelle in arretrato con i debiti. Tremonti ai ministri, rigore nei conti. Per l'ex terrorista Cesare Battisti, rifugiato in Brasile, il presidente Lula verso il no all'estradizione. Al TG3 la rabbia di una delle vittime. Si accendono da oggi i satelliti Sentinella della Fondazione Cluny per il Sudan. Dall'alto raccoglieranno prove delle violenze in Darfur. Il Dipartimento di Salute Mentale di Pisa ospita con operatori e utenti del Dipartimento di Salute Mentale di Pisa viene organizzata un programma alla radio ospitato da Punto Radio che si chiama Collegamenti. I miei interlocutori mi dicano se ho sbagliato qualcosa. Luca Doni è quello che per Punto Radio si occupa così di condurre questo programma. Luca, sei in collegamento? Sì, sono qua presente. Buonasera. È così, ho detto bene la presentazione è giusta? Allora, a dire la verità, non sono io che conduco il programma, io me ne sto in silenzio alla regia e faccio condurre una vera e propria redazione che è formata dagli utenti appunto del Dipartimento. Chi hai stasera? Perché io so che dovrebbero esserci David, Cristina, un altro Luca e Stefano. Esatto, sono ci tutti sono qui tutti. Con me. Avete sentito? Ciao. Ciao. Buonasera, benvenuti alla Zanzara su Radio 24. Avete sentito i titoli dei telegiornali? Non so se c'è qualcosa che vi frulla per la mente di voler già raccontare, se volete intervenire, se no vado avanti con la presentazione dei temi. No, io volevo dire un argomento. Chi è che parla? Davide. Davide. Ciao. Allora, l'argomento quello dell'estradizione di Lula. Sì. Sì. Sì, la decisione che dovrebbe arrivare su Lula, sì, che però Lula. La prenderà domani, sì. Di Cesare Battisti. Ora, io sono d'accordo perché quello è un terrorista e ha fatto degli omicidi negli anni 70 quando c'era Brigate Rosse. Però è anche vero che qualche giorno fa è stato l'ho scoperto proprio all'ultimo minuto che un terrorista è stato assunto all'ATAC e su Facebook a Roma. A Roma. E su Facebook inneggiava a buttare della pesce nera sugli studenti che manifestavano contro la legge Gelmini. Ora, se è vero che Battisti deve essere tradato, bisogna anche dire che anche questo terrorista deve essere cacciato. È stato sospeso però, questo lo possiamo dire, grazie Davide per questo intervento, è stato sospeso e vabbè insomma 800 24 00 24, c'è stata una prima provocazione che viene dalla redazione di Collegamenti che sono con noi collegati da Punto Radio a Pisa. Altri interventi ragazzi? Gli interventi sarebbero molti, non so se loro vogliono intervenire, allora, c'è Cristina. Ma a me mi ha colpito molto questa, ho sentito prima questo discorso di Berlusconi sui rifiuti di Napoli che stanno cercando di provocarlo, insomma sembra che lui debba in qualche modo risolvere tutti i problemi d'Italia. Beh, il Presidente del Consiglio ci prova quantomeno. C'ha le promesse. C'è anche Stefano che vorrebbe intervenire. Buonasera, sono Stefano. Buonasera Stefano. mi ha colpito la notizia della bomba che hanno messo alla sede della Lega. Alla sede della Lega. Sì. È una brutta notizia, insomma, no? Una brutta notizia, sì. Come mai possono succedere ancora queste cose in Italia? Bella domanda, grazie. 824 0024. Restate lì perché naturalmente continuiamo a parlare con voi. Adesso che ne dite in redazione? Andiamo avanti quella di Milano con le proposte per questa sera anche per i nostri ascoltatori. E allora che sentiamo? Sentiamo Dario Fo. Dario Fo in un'intervista, le sue pagelle. Ieri abbiamo sentito Sgarbi, sentiamo lui. Prima di tutto dice: abbiamo visto vendere dei senatori in queste ultime settimane, uno scandalo. Abbiamo visto addirittura mercati vendere senatori e altri personaggi messi così al bando, quasi con l'offerta e la rinuncia, la tragedia, il pianto. Ancora Dario Fo, abbiamo alla cultura gente che non ha mestiere. Hanno messo a dirigere, per esempio, la cultura persone che non hanno una dimensione di mestiere, il mestiere, il sapere che cosa ci vuole, conoscere l'origine delle cose. Tremonti, dice Dario Fo, bisognerebbe schiaffeggiarlo, sentite. C'è una frase che ho sentito dire dal ministro che dice: ma non ha imposto, non siamo così a discutere il problema, tanto la cultura non si mangia, l'arte non si mangia. E che, permettetemi di dire, la frase più imbecille che si possa immaginare. Io dico che un dirigente, un ministro che si lascia sfuggire una bestialità del genere, bisognerebbe schiaffeggiarlo ogni tanto. Beh. E allora le pagelle invece, questa è la Dario Fo, di Daniela Santanchè, che ce l'ha a morte con Fini e con il Terzo Polo. A morte dico naturalmente scherzando, ironizzando un po'. Sentiamo Santanchè sul Terzo Polo. Il vero difetto è che non hanno un progetto politico, o meglio, ce l'hanno, nel senso che è uguale a Di Pietro, l'anti-berlusconismo. L'UDC mi sembra che ultimamente stia prendendo delle posizioni non in tal senso, e questo è assolutamente positivo per l'Italia. E se dovessimo andare a elezioni, io credo veramente che l'UDC debba stare con noi. Gli screzi tra Daniela Santanchè e Gianfranco Fini vengono da lontano, così lo descrive lei, sentiamo. A prescindere se ha escort, attentati o quant'altro, cosa che io non ho elementi per giudicare e non voglio farlo, avrebbe dovuto dimettersi a prescindere, perché il Presidente della Camera è eletto dalla maggioranza del Parlamento, lui stesso ha dichiarato che fa parte dell'opposizione. Beh, mi sembra anche una mancanza di coraggio, perché se uno vuole fare la guerra la deve fare sino in fondo e non salvando quelle che sono le poltrone. Questa era Santanchè che entra nel dibattito politico che è seguito all'editoriale di Belpietro sulla escort o non la escort, il fitto attentato. Ma sentiamo invece come giudica lei il progetto politico, tutto negativo secondo lei, di Fini. Sentiamo. Potrà fare finalmente un movimento che porterà il Corano nelle scuole, un movimento che darà il voto agli immigrati, un movimento che si batterà perché non vengano espulsi i clandestini, un movimento che si batterà per il riconoscimento delle coppie gay, un movimento che si batterà perché si possa decidere quando morire, no? L'eutanasia. Questo è il sottofondo che abbiamo usato per parlare della spy story sollevata dall'editoriale di Belpietro sul presunto finto attentato a Fini, che ha innescato una serie di reazioni a catena. Ci sono ben 3 inchieste aperte in 3 diverse procure, Andria, credo Bari e Milano sicuramente. E intanto la Digos informa che Fini non ha, almeno per quello che hanno potuto appurare loro, intenzione, non aveva intenzione di recarsi ad Andria, quindi sarebbe tutto privo di fondamento. Però insomma, la notizia lanciata da Belpietro, la possibile notizia, quantomeno ha degli strascichi politici. Abbiamo sentito prima il commento della Santanchè, sentiamo un finiano di ferro, Briguglio. Il Presidente della Camera si sta solo difendendo da una aggressione mediatica che continua e che passa attraverso i giornali vicini o influenzabili da parte di Silvio Berlusconi. Noi comunque siamo all'opposizione, il governo, se ha i voti per governare, governi, noi staremo attenti soltanto agli interessi del paese. 800 24 0024, cominciamo con gli ascoltatori che fin qua abbiamo un po' trascurato. Il primo, diamo il benvenuto, è Enzo dalla provincia di Carbonia, la provincia di Carbonia. Esiste Carbonia la Iglesias, Carbonia Iglesias. Ah, ecco, mi mancava, prego. Buonasera. Allora, il mio ragionamento è questo. Io vivo in una regione del Meridione in cui la disoccupazione è talmente diffusa per cui sono arrivata alla conclusione che è meglio avere qualche diritto in meno e il posto di lavoro piuttosto che non avere il lavoro e andare a pretendere questo grosso diritto. Quindi la scelta della Fiat, secondo me, è una scelta giusta e importante e soprattutto bisogna contestualizzare il fatto che sta avvenendo, perché noi siamo dimenticati che nel 2008 c'è stato un nuovo 29, quindi una crisi devastante, e l'imprenditore in questo momento che si deve mettere in competizione con i cinesi, con gli indiani, con una competizione talmente difficile, credo che la Fiat abbia fatto una scelta utile all'Italia e i due sindacati che hanno accettato quel compromesso hanno fatto una cosa giusta, secondo me, perché io continuo a ripetere, e l'ho detto prima, che preferisco mia figlia che lavori anche con uno stipendio più basso, ma lavori, piuttosto che restarsene a casa ad aspettare un lavoro che la Fiat sta dando in Croazia. E in Sardegna, tra l'altro, voi ne sapete qualcosa, ci sono molte vertenze, aziende che lasciano, che se ne vanno, e operai che rimangono senza lavoro. La Russa che abbandona l'Euralumina, l'Alcoa che tiene, ma perché il governo è intervenuto e quindi è una forma di assistenza, e meno male che c'è stata, ma perlomeno la gente, quei pochi che adesso stanno lavorando, continuano a lavorare, perché il problema più importante è il lavoro. In questo momento il lavoro, se viene anche pagato un pochino meno, perché il contesto è quello che stiamo vivendo, mi pare più giusto avere il lavoro e rinunciare a qualche piccolo diritto che abbiamo guadagnato negli anni passati. Grazie, mi pare una sintesi perfetta dal suo punto di vista. Benissimo, 800 24 0024, tra poco rientriamo, ora la borsa e poi di nuovo in collegamento con Collegamenti di Punto Radio a Pisa. 800 24 0024, voglio fare i miei complimenti alla redazione di Collegamenti, perché nella prima parte, quando siete intervenuti, mi siete piaciuti, avete cominciato bene commentando i titoli, insomma, della serata. Non è facile mettersi lì a dire la propria su questi argomenti, come fanno gli opinionisti alla radio, no? Ecco. E vorrei sapere proprio da voi, Luca Doni, magari la giro a te e anche agli altri, com'è l'esperienza di questo programma alla radio? Cosa ne state tirando fuori in questi, sono quasi 2 anni credo che sta andando avanti? Sì, ormai sono quasi 2 anni, iniziò nella stagione 2009 questo programma Collegamenti, ma io darei anche un po' la parola prima di tutto ai veterani della trasmissione. I redattori sono Cristina e Davide, che sì, presero parte anche all'ideazione vera e propria del programma, del titolo anche del programma, che appunto si chiama Collegamenti. Sì, io niente, quando mi proposero questa avventura, perché per me era un'avventura, non ero mai stato davanti a un microfono per nessun motivo, quindi per me era, e poi sono anche un tipo emotivo, quindi stare davanti al microfono per me diventava una cosa molto pesante. Meno male che non c'era la telecamera, sennò era... Dopo hanno installato una webcam. Aiuto, quindi, peggio però mi sento. Mi ero già sciolto a livello radiofonico. E quindi niente, io ho accettato volentieri perché mi piaceva molto andare in diretta, perché noi siamo una delle poche radio di questo genere che andiamo in diretta. In diretta. Siamo pochissime cose pre-registrate, interviste, sì, quando facciamo fuori. E quindi questa avventura, niente, io poi, io però personalmente dovevo stare al di fuori del microfono, perché io ero l'ideatore, sono stato l'ideatore, il gestore. Diciamo l'autore, ma non quello che doveva stare il frontal man. Io però vorrei chiedervi se secondo voi questa esperienza che fate alla radio è più utile, interessante per voi, per esprimere anche le vostre personalità o per creare dei percorsi terapeutici, o anche per gli ascoltatori che possono sentire un punto di vista differente, diverso dal solito. Chi mi risponde? Ma sicuramente diciamo che... Cristina. Sì, sono Cristina e diciamo che almeno a me personalmente è stato, come dire, consigliato vivamente dallo psichiatra curante di partecipare a questo programma. Quindi sembra, insomma, secondo le moderne teorie della psichiatria, che abbia dei risvolti positivi sul percorso di guarigione. Naturalmente poi speriamo anche che ci serva come esperienza, chissà, per un domani, per qualsiasi altra esperienza. Gli ascoltatori, beh, sicuramente... Che dicono persone... gli ascoltatori? Apprezzano? Vi mandano dei messaggi, delle lettere, delle mail? Davide è l'esperto dei collegamenti. Sì, no, ah, è vero, perché Davide è il nostro blogger anche, no? Esatto. Sì, sono io che avevo detto... Ha il polso con il mondo esterno rispetto a questa vostra esperienza radiofonica. Che vi dicono? Anche marketing, perché io poi pubblicizzo ad altre radio il nostro progetto, e più ho fatto dei banner e quindi dei volantini, e quindi sono anche un po' il marketing della situazione. Ma gli ascoltatori che dicono, sono sorpresi, vi accolgono positivamente oppure? Sì, no, i nostri ascoltatori sono molto soddisfatti del nostro prodotto. Io direi, insomma, aggiungerei un attimo sì. Anche il fatto che con questa redazione veramente danno un punto di vista diverso su molti, molti argomenti. Io ricordo all'inizio, forse una delle, a metà percorso, quando loro vollero affrontare il tema della riforma della legge 180, che, di cui nessuno parlava. Sì. Fu una trasmissione molto bella. Io vorrei anche rileggere una parte dell'intervento, se è possibile, molto breve, una sì. Piccola parte che Cristina fece proprio per indicare la loro negatività su questa proposta di riforma di legge 180. Perché, diciamolo, c'è stato in questi ultimi mesi un dibattito in Parlamento, qualcuno ha detto si può modificare la legge che aveva chiuso i manicomi, che ha chiuso i manicomi. La famosa legge Basaglia. La legge Basaglia, il discorso dell'utilizzo anche di strutture private, eccetera, eccetera. Una cosa che ha messo un po' in subbuglio lì la vostra comunità. E cosa ne è venuto fuori, Luca? È venuto fuori... Il discorso della paura. C'è una ragazza che ha fatto un intervento che si chiama Silvia, che oggi non è qui presente con noi, che ha detto: io mi ritengo fortunata di non essere nata 10 anni prima, quando ancora non c'era la legge Basaglia, perché a quel punto sarei dietro un cancello e basta. Questo è quello che ha affermato lei. Lei qua è una redattrice, fa i suoi editoriali ogni volta, e anche Cristina aveva preparato un suo editoriale. 3 righe di presentazione di Cristina su questa legge 180, anche perché vorrei che ci si riflettesse un po'. Vai Cristina, poi risentiamo anche gli ascoltatori, che lo dico, sono già molti in attesa, ma li sentiamo, così sì, poi li facciamo interagire anche con voi lì da grazie. Pisa. Cristina. Allora, questo discorso che avevamo preparato cominciava così. La mia paura è che si voglia far credere che con piccole variazioni di legge si possano risolvere problemi sociali come la presenza di persone socialmente pericolose, facendo credere che chiunque ha problemi di salute mentale sia da rinchiudere. Se è vero che spesso chi ha problemi di salute mentale non accetta volontariamente di farsi curare, è anche vero che se una persona viene seguita adeguatamente da medici e personale competente, può arrivare a accettare le cure di sua spontanea volontà. E mi sembra un bel messaggio anche per gli ascoltatori. Benissimo, restate lì, adesso però sentiamo qualche intervento degli ascoltatori sui temi della serata. Abbiamo parlato di Pomigliano, abbiamo parlato anche un po' di politica, l'editoriale di Belpietro, ancora gli strascichi politici, abbiamo parlato anche con questi redattori di collegamenti da Punto Radio. Chi abbiamo? Sentiamo Nicola da Milano, buonasera. Pronto? Prego. Buonasera. Certo, i problemi sono tanti, cioè adesso dire di 4 parole. Io avevo già detto che volevo intervenire sul discorso di Pomigliano. Sì. Io penso una cosa, che sicuramente per andare avanti bisognerebbe, cioè sono sostanzialmente anche amaramente d'accordo, ecco dico questo, amaramente d'accordo con Enzo, che diceva purché mia figlia lavori bisogna anche accettare qualche sacrificio. L'ascoltatore sardo, sì. Sardo. Allora, io attualmente per esempio sono in mobilità, purtroppo la mia ditta non ha chiuso, attenzione, non ha chiuso, però siccome sembra che ormai i sindacati non abbiano più un valore, non abbiano più un polso, ci hanno lasciato a casa e hanno scelto anche i lavoratori da lasciare a casa, attenzione, quindi è stata proprio una cosa premeditata. Comunque, a parte questo discorso, io penso una cosa, che comunque, cioè questo è un po' il clima che si respira ormai, cioè ormai le aziende, come dire, hanno questo senso di rivalsa nei confronti, come dire, di quello che sono state invece delle lotte importanti del passato, cioè ormai il sindacato non riesce più ad avere anche quella voce in capitolo, soprattutto quelle argomentazioni valide per potersi contrapporre, diciamo, una volta si diceva al capitale, io ho militato nell'estrema sinistra negli anni 70, quindi ho ancora una forma mezza, forse è a rimorchio il sindacato, come si potrebbe dire con una sintesi, mi sembra chiaro quello che vuoi dire, anche in questo caso sicuramente agisce di rimessa. Piero da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Credo che l'argomento pomigliano sia l'argomento centrale, anche perché scardina tutte le vecchie politiche sindacali che abbiamo conosciuto. Io ho 40 anni, sono un elettore del centro-sinistra e mi stupisco molto che l'area di riferimento sindacale, che poi è la CGIL per quanto mi riguarda, anche se non sono sindacalizzato, nel senso che io non ho una tessera sindacale, sia stata così sciocca da lasciarsi fuori da sola da quello che era, secondo me, l'appuntamento con la storia. Cioè, abbiamo svoltato, credo, 15 anni fa rispetto alle vecchie logiche di contrapposizione sindacale, di trattativa sindacale, come si vuol dire. Però la CGIL è rimasta 20 anni fa, 25 anni fa, credo che sia rimasta addirittura la marcia dei 40.000 della Fiat, credo che sia rimasta lì, e lo dice anche in un libro Bertinotti, cioè una persona tutto sommato che di quel mondo lo conosceva molto meglio di me. La CGIL è rimasta alla marcia dei 40.000, è rimasta lì, credo, perché questo accordo non è vero che non è sbagliato, questo accordo è giusto per i tempi in cui stiamo vivendo, o tutti noi, cioè lavoratori, cominciamo a pensare che è cambiato il mondo, oppure purtroppo ci troveremo a fare conti con l'amarezza di chi pensa che il sindacato non esiste più, come l'ascoltatore di prima. Io credo che il sindacato esista, CISL e UIL hanno dimostrato di esistere. Grazie. Di esistere anche forte. Grazie, mi sembra chiaro il suo intervento. Renato dalla provincia di Imperia, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, innanzitutto formidabile questo collegamento con questi ragazzi, un abbraccio grandissimo e un grazie non per avermi chiamato ma per aver fatto questo collegamento, bisognerebbe farlo tutte le sere. Grazie anche da parte loro. Tra parentesi, Cruciani adesso sei in ferie, se vuole continuare a stare in ferie che sta bene, continui ancora un po' che per conto mio sarei contentissimo, senza... Vabbè. Andiamo avanti, dai, sì, sì. L'argomento è la bomba che è scoppiata nella sede della Lega, no? Io personalmente non ce l'ho con la Lega, però quando sento parlare di bomba alla sede della Lega, no? Io le bombe credo che siano quelle che vengono fatte esplodere in Afghanistan, in Iraq, dove muoiono centinaia di persone. Però mi scusi, ora in questo caso fortunatamente si è trattato di poco, però... Appunto, ma è il fatto... Però non si scherza, sapere, eh? Mi scusi, ci sarà un giornalista che riesce a dire che non è una bomba, ma sono due mortaretti che due ragazzotti hanno buttato e adesso tutta l'Italia ne parla? Mi sembra, io sento un fastidio nella pancia grandissimo quando vedo anche questi ragazzi che hanno parlato di bomba, ma non era una bomba, queste sono quelle cose che adesso a Carnevale le buttano, cioè a Carnevale, a Capodanno le buttano tutti, oggi al supermercato alla Lidl c'era pieno di questi prodotti così in vendita. Perché? Bombe carta. Forse è qualcosa, sì, di più del mortaretto, permetto di dire. Poi sintesi giornalistiche, è chiaro che se uno dice bomba, addio, che è successo? Poi una bomba carta forse è più simile al mortaretto, però insomma si tratta comunque sempre di segnali non... Naturalmente non per niente positivi. Grazie comunque anche a lei. Vorrei tornare alla redazione, ai ragazzi di collegamenti che sono ospiti appunto radio a Pisa, e vorrei chiedervi che rapporto avete, faccio una digressione, con le tecnologie, con internet, con i social network. Noi anche ieri ne abbiamo parlato, sappiamo che questo è l'anno di Facebook, perché insomma il suo fondatore è stato nominato uomo dell'anno, ha creato una rivoluzione per molti di noi, e vorrei sapere se anche voi ne fate uso, sicuramente Davide, perché a quello che ho capito è l'esperto appunto di nuove tecnologie. Pronto per passare, sì. Perché sì, no, io sono quello esperto da sempre, perché io credo di essere stato uno dei primi in Italia a avere un collegamento internet nel 94, quindi da allora niente. E Facebook lo usi? È aumentata, quindi io sono iscritto a tutti i social network possibili. Ah, tutti? Tutti, però uso solo Facebook. Quell'altro cosa, solo per... Che cosa ti consente di fare Facebook rispetto a quello che non potevi fare prima? Allora, no, Facebook mi consente intanto di conoscere persone nuove, realtà nuove di altre zone d'Italia oppure del mondo, perché io me la cavo anche un po' con l'inglese, quindi ho conosciuto persone anche al di fuori, all'estero, in Inghilterra, in Australia, e comunque comunicare con delle persone che o hanno i miei stessi gusti musicali, politici, eccetera, eccetera, ma anche chi ha argomenti diversi, quindi si discute. Davide. Però è un grande mondo, perché il social network consente comunque di uscire dal nostro... Dalla solita habitat. Cerchia. Vorrei sentire, Davide, anche i tuoi colleghi, che non abbiamo credo ancora sentito, forse Stefano e non so se Luca... sono già intervenuti oppure no, se vogliono naturalmente intervenire per esempio su questa questione, oppure se ci volete anche lasciare con una vostra aspettativa per l'anno che verrà, non so, sulla vostra condizione sociale o lavorativa. Per molti di noi il lavoro è l'ansia, abbiamo appena parlato di Pomigliano e di tutte queste questioni qua. Quali sono i vostri auspici, o magari che cosa invece non vi volete portare dietro l'anno prossimo, che volete cancellare di quest'anno che è appena passato? Ma io sono Luca. Gli auspici nostri, almeno il mio, è quello di stare sempre meglio, di stare insieme ad altre persone facendo cose che mi piacciono, come quella che stiamo facendo qui alla radio. Quindi continuare col programma alla radio, per esempio, andrebbe benissimo. Come? Quindi continuare questa esperienza qua, sì, sarebbe l'ideale per voi, sì. Questa esperienza è bellissima. Quello che volevo, ora volevo dire una cosa su Berlusconi, sì. No? Posso dirla? Certo. No, che secondo me sta arrivando a bassezze tali che tutto sta diventando un'abitudine. Ormai la gente è abituata a tutto, perché lui sta sempre scavando, sempre più in basso. Cioè, ormai è entrato nel costume degli italiani e tutti sono abituati a quello che fa. Però quando va a toccare, come è successo a Roma, quando i ragazzi, gli studenti, gli operai hanno fatto quello che hanno fatto, è perché lì sta toccando nel vivo le persone, gente che non può più lavorare, gente che non ha possibilità di studiare, e lì esplode la rabbia vera, e lì, a quel punto lì lui si scontra con le persone vere, non con quelle che fanno le diatribe così politiche di ogni giorno. Lì la gente si sta veramente arrabbiando, e penso che nello scuola dovrà stare molto attento. Altri commenti, penso, ragazzi? Che l'unica cosa che potrà fare per essere veramente un dittatore. Basta. Stefano, buonasera, io sono Stefano. Stefano, buonasera, allora, benvenuto, eccoci qua. Volevo dire che a quello che avevo detto prima della notizia sulla Lega, sì. Io non intendevo dire così, insomma. No, intendevo dire, perché un ascoltatore ha chiamato, è intervenuto dicendo che insomma voleva un po', invitava a non enfatizzare troppo, sì, a non esagerare, no, perché insomma un mortaretto. Io però ho detto che secondo me non è così, perché sono sempre brutti segnali, insomma, no? Sì, va bene. Comunque per il prossimo anno io mi aspetto di stare sempre un po' meglio, niente. Vedete come a volte sono anche piccoli i passi che si possono fare per migliorare la propria condizione, partendo per stare meglio con gli altri e con se stessi. Benissimo, grazie. Restate ancora con noi qualche minuto. So che alle 8 poi vi chiuderanno la porta alle spalle, dovete uscire dalla redazione. Abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme e per sentire gli ascoltatori, che sono molti in attesa. Da dove ripartiamo? Da Nino, che chiama da Foggia. Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io avevo chiamato per la bomba alla Lega, insomma, concordavo un poco con l'amico, era un mortaretto. E, con la potenza investigativa del suo capo, del capo del Viminale, l'avrebbe trovato in tre giorni, anche in 24 ore. Però volevo parlare un attimo di Pomigliano, l'accordo di Pomigliano, se sì. È possibile. Secondo me, io lavoro in Poste, sono un consulente finanziario e prendo 1.250 euro al mese, come un operaio più o meno. Ci tartassano che lei non ha neanche l'idea. Volevo dire, ma non è che poi questo accordo fa da apripista a tutte le altre, cioè Poste poi si potrebbe adeguare con lo stesso accordo. Ma guardi, non lo so, tutto è possibile, ma non c'entra, mi sembra, nulla, sono campi completamente diversi. Marchionne ha posto dei problemi specifici sul settore dell'auto, lei lavora alle Poste, insomma, mi pare che sia al di fuori del contratto nazionale, quello è che dicevo io. Sì, ho capito, cioè lei ne fa un discorso di metodo, sì, non lo so. Sentiamo che cosa ne pensano gli ascoltatori, se la sua preoccupazione è condivisa anche da altri, ma credo che non è di questo che stiamo parlando. Dove andiamo? Riccardo, dalla provincia di Milano. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io volevo fare i complimenti a lei per il collegamento che ha fatto con quei ragazzi, li chiamo ragazzi anche se certo. Sono adulti. Ah, sono adulti, certo. Non abbiamo detto l'età, ma insomma poi magari in un'altra occasione. Sì, anch'io sono un ragazzo di 53 anni. Benissimo. No, perché si parla molto poco di queste cose, so che ci sono altre esperienze, anche a Trieste per esempio c'è una radio che si collega con la radio qui di Milano, Radio Popolare, sì. E fa una trasmissione alla settimana dove vengono presentati alcuni famosi personaggi, sì. Che hanno avuto problemi di salute mentale. Leggeri magari. È un modo anche per dare un punto di vista diverso, io l'ho chiesto anche a loro e mi sembra che questo sia assodato, può essere interessante anche per noi che siamo chiusi a nostra volta nei nostri mondi e avere appunto una voce, un punto di vista diverso, un interlocutore diverso. Voleva intervenire anche su qualcos'altro o era questo il punto? No, era questo. Va bene, grazie, allora bene. Buona serata, andiamo a Francesca da Varese, buonasera. Pronto? Abbassi la radio perché altrimenti sì, c'è il ritorno. A posto. Prego. Buonasera dottor Maurizi, anzitutto la devo ringraziare per la bellissima zanzara di ieri sera, è tornata veramente la voglia di ascoltarla, perché ultimamente grazie. Sinceramente la gazzarra di Curucciani e Parenzo era una cosa inascoltabile. Vabbè, ma questo è il suo giudizio, in realtà altri ascoltano sì, so molto lei, attentamente. Lei è molto umile, si schernisce. No, ma vede, non è questione di umiltà, è questione o di gusti o come beh, dire, cioè, guardi, anche di scelte personali. Sì. Anche i temi che ha proposto stasera sono di tutto rispetto, poi trattati come li tratta, poi come accoglie gli ospiti. Guardi, io adoro Filippo Rossi per dire, ieri sera come lei l'ha accolto è stata una cosa senza interrompere, senza parlarci sopra. Vabbè, qualche volta però bisogna anche interrompere perché sennò... Voglio dire, ognuno conservando sì. La propria posizione e rivendicando il giusto diritto di esporla, sì. Però alla fine c'è modo anche di trattare con la gente in maniera... Ma mi tolga una curiosità, non avrà chiamato per questo, per fare questo panegirico su Rossi, no? Quando ho sentito Coso Fo, sì. Che ha parlato di Tremonti, perché io sono proprio un'anti-tremontiana proprio totale. Ce l'ha con Tremonti, no? È arrabbiata con Tremonti. Cioè, certo, Tremonti taglia qua, le risorse a tutti. Questo qui passa per essere un luminare dell'economia e non capisce un tubo, no? E quindi voglio dire, finalmente uno che glielo dice chiaro e tondo in faccia che andrebbe preso a schiaffoni, io mi unisco a Fo. Vabbè, ma diceva metaforicamente, non, no, beh, e parlava dei tagli, evidente, naturalmente, alla cultura. La sì. Violenza la rifugiamo tutti, però mi aggiungo anch'io perché... Cioè, sono stufa di sentirlo sì. Dipingere come un grande luminare quando alla fine... Cioè... Però mi scusi, voglio essere controcorrente rispetto a quello che dice lei, ma mi sembra facile sparare su Tremonti. Molti hanno detto che la stessa politica economica l'avrebbe fatta uguale il centrosinistra se fosse stato al governo, il Partito Democratico. Non era molto diverso quello che ha fatto Tremonti da quello che avrebbe fatto Padoa-Schioppa. che è morto purtroppo qualche giorno fa, insomma, nella situazione in cui siamo, non c'erano molte strade diverse da percorrere. Ecco, allora, io riporto quello che è l'opinione di, diciamo, i commentatori economici, quasi la stragrande maggioranza, insomma. Dopodiché, ascolti, poi ognuno la pensa come vuole. Al di là, cioè, di... Sì. Scusi, al di là di quello che le condizioni date imponevano e non c'era altra scelta, non è stata una bravura oppure la capacità di resistere dentro il fortino, di non mollare soldi a nessuno. C'erano delle condizioni date, c'era l'Europa, c'erano dei vincoli, quindi voglio dire, Tremonti alla fine non ci ha messo poi tanta fantasia in quel famoso rigore. Il problema è che adesso gli viene rimproverato di non aver lasciato spazio alla crescita e quindi di non avere abbastanza fantasia, lo dicono, cioè lo dice anche la vostra datrice di lavoro, la donna Emma, quindi non lo dice mica soltanto la sinistra, voglio dire, no? Quindi Tremonti alla fine, con tutto il rigore, però avrebbe dovuto prevedere anche... Va bene. Mi pare chiaro quello che lei voleva dire, grazie, siamo quasi in chiusura, ancora un ascoltatore, Gino da Napoli, buonasera, in chiusura di questa parte, non del programma, Gino da Napoli, prego. Sì, buonasera. Sì. Senta, io volevo fare una considerazione, chiaramente è una mia opinione personale, per quanto riguarda il fenomeno delle bombe carta alla sede della Lega, come l'attentato di cui si parla al presidente della Camera Fini. Beh, credo che bisognerebbe fare una più attenta analisi politica o approfondire, perché mi sembra che si voglia con questo portare un po' l'opinione pubblica verso un'unica direzione, o almeno mi è sembrata. Pronto, mi sente? Sì, la sentono anche gli ascoltatori, prego. Mi sembra come se fosse un po' una forzatura, o almeno attendere gli sviluppi, ecco, di dare, non voglio dire che, ecco, è un fenomeno da passare sotto un banco, che sia inosservato, però sembra che sia quasi come distogliere l'attenzione da problemi più gravi, più profondi. Io chiamo da Napoli, quindi con una situazione di emergenza tale che sta passando un po', diciamo, sotto banco rispetto a quelli che sono più grandi temi, diciamo tra virgolette, ecco, l'attentato a Fini, le bombe carta alla sede della Lega, e non si parla più tanto di Napoli, si fa solamente ogni tanto il bollettino di quanta spazzatura c'è per le strade di Napoli. Oggi mi sentito, resti collegato con noi, che fra un po' ne parliamo, anche perché oggi c'è stato un vertice, credo, a Palazzo Chigi con i presidenti di tutte le province per vedere chi si farà carico anche dei rifiuti napoletani. Ne parleremo tra poco con un ospite da Salerno. Io voglio ringraziare però Luca, David, Stefano e Cristina da Punto Radio. Buonasera, grazie per essere stati con noi. Salutateci con un saluto corale, se volete. Allora, ciao a tutti. Siete soddisfatti? Vi è piaciuto? Ciao. Siete stati contenti di aver partecipato? Spero di sì. Spero che abbiamo fatto un servizio anche agli ascoltatori. Facciamo una pausa, poi torniamo tra poco. 800 24 0024. Ideologia, la FIOM proclama 8 ore di sciopero. Berlusconi, nel 2011 crescita tornerà a livelli pre-crisi, molti finiani torneranno da noi, rifiuti, qualcuno vuole ostacolarci, scendo in campo io. Due petardi esplosi nella sede della Lega Gemonio vicino casa di Bossi, Maroni, non ci faremo intimidire, il questore di Varese, matrice politica. Indiscrezioni dal Brasile, Lula negherà l'estradizione del terrorista Cesare Battisti, condannato in Italia con sentenza definitiva, la rabbia delle vittime. Botti illegali a Roma e Bari, nascosti nei garage dei palazzi all'insaputa dei residenti, si chiama finanziaria, il fuoco d'artificio più pericoloso. Mezzo secolo di figurine dei calciatori, una passione che ha attraversato generazioni di ragazzi, fino ad oggi ne sono state stampate 20 miliardi e i primi album sono diventati costosi oggetti da collezione. Una finanziaria col botto, no? E ogni anno c'è la corsa al nome più originale per i botti, insomma, questa volta si sono inventati questo. Giulio da Roma, buonasera, benvenuto all'800 24 0024. Prego. Ci sente Giulio? No, non ci sente. Allora andiamo a Francesco, sempre da Roma, se ci sente, buonasera. Sì, la sento. Prego. Come mi sentite? Sì, benissimo, prego. Guardi, io ho appena sentito queste indiscrezioni sul fatto che non sarà estradato, oddio, per l'emozione non mi viene il nome, Battisti. Naturalmente io esprimo tutta la mia solidarietà alle vittime, ho appena visto l'orfano di Torreggiani rimasto sulla sedia a rotelle, una vita rovinata, mentre questo Battisti si è permesso di scrivere libri, di essere nel jet set, di ricevere solidarietà da presunti intellettuali di sinistra. Io non so questa gente come sa chiamarsi di sinistra. Guardi, io, quindi sicuramente le vittime di questa persona con le mani macchiate di sangue hanno tutta la mia solidarietà e la mia comprensione. E io però volevo anche portare un altro punto di vista, quasi mi vergogno a parlarne di fronte al dolore di queste, però c'è un'altra colpa che ha questo qui. Cioè? Per colpa di questi terroristi, di questi assassini, di questi delinquenti, dei normali ragazzi di sinistra che negli anni 70 manifestavano, secondo me anche giustamente, io ero fra loro, dei normali ragazzi di sinistra che magari a corteo potevano fare una stupidaggine, incendiare un cassonetto, rompere una vetrina, per carità, cose non da fare ma stupidaggini, cioè cose che quindi 10 anni prima degli anni 70 il poliziotto ti avrebbe preso per l'orecchio, ti avrebbe dato 2 scapaccioni, ti faceva fare una notte in cella e poi deve tornare a casa, perché questo meritava, no? Un ragazzo che fa una criminalità così, niente di più. Per colpa di questi terroristi, questi ragazzi sono stati puniti con le leggi speciali, sono stati identificati, sono stati marchiati per la vita, si trovano la fedina penale sporca. Anche loro magari non hanno potuto trovare lavoro. A distanza di 35 anni ancora ti si chiede: sei un condannato penale, ti porti questo marchio appresso per colpa di questi terroristi. Ora, chiaramente, diciamo, quello che ha subito Torreggiani è imparagonabilmente più grave, questo è fuori discussione. Però oltretutto c'è stata anche questa cosa, diciamo, lui ha tolto alle persone veramente di sinistra, magari un po' estremiste, ha tolto la possibilità di esprimersi, di manifestare, perché venivano subito incolpati di essere quasi fiancheggiatori di terroristi, quindi un'ulteriore cosa. Basta prendere le distanze dal terrorismo per allontanarsi automaticamente da quelle posizioni. Poi se c'è qualcuno che strumentalizza, guardi, è un'altra cosa. Sì. Certo, sì, lo so, basta prendere distanze, uno lo prende, però guardi anche i ragazzetti di adesso che fanno 4 cortei già. Poi uno sa, a 20 anni uno prende le distanze, però magari un corteo la fa, una stupidaggine la fa e resta colpito dalle leggi speciali. Ora non è possibile che chi ha fatto una stupidaggine 20 anni fa, una stupidaggine, resti marchiato a vita, e questo qua scrive i libri, va in televisione, ci guadagna, ci fa i milioni. Va bene, grazie, mi sembra chiaro quello che voleva dirci. Ascoltatori, potete intervenire anche su questo, perché la notizia è che Lula ha, il presidente brasiliano uscente non ha ancora deciso, ma verso il no la sua decisione sarebbe all'estradizione dell'ex terrorista Battisti. Cosa abbiamo? Titoli della 7, TG della 7. Ecco l'intesa che divide. Per Pomigliano l'accordo è fatto, ma la FIOM rimane fuori e proclama uno sciopero per il 28 gennaio. Così le vicende Fiat 30 anni dopo tornano a dividere la sinistra. Il leader FIOM Landini al PD: andate voi in fabbrica, ma non ci stai neanche tu, gli risponde D'Alema. Siamo nella palude e con pochi voti in Parlamento, insiste Bossi, inviando un chiaro messaggio politico anche a Berlusconi. Il premier gli risponde: sicuro, sono tanti i delusi tra i finiani, presto torneranno tra noi. Ma che, dice Grigoni. E adesso le bombe carta arrivano anche davanti alla sede della Lega, proprio a Gemonio, la città di Bossi. Nessun ferito ma tanta inquietudine. Maroni dice: non ci lasceremo intimidire. Solo domani la decisione del presidente uscente brasiliano Lula sull'ex terrorista Cesare Battisti, ma appare già scontata: no all'estradizione. E qui da noi esplodono le polemiche, un affronto politico, dicono da tutte le parti. Forse presto rivedremo sul TG1, se vedremo il TG1 ovviamente, Tiziana Ferrario. A deciderlo non è il direttore del giornale, ma il giudice che ha reintegrato la giornalista perché nei suoi confronti c'era stata una decisione politica. Niente politica, ribatte Vincenzo, era lì da 28 anni. Su Yara, dopo l'appello dei genitori, torna il silenzio, ma vince la linea della speranza. Le ricerche della ragazza continuano senza certezze, ma con maggior vigore. Evviva, ridate, ce l'avevano detto ieri i genitori. Altro che lavoro, quello che cercava era un sogno, adesso l'ho trovato. Così Leonardo, al via alla testa dell'Inter, il neo allenatore assicura: possiamo ancora risalire la classifica e vincere lo scudetto. Questa è la sintesi di Enrico Mentana nei lunghi titoli del TG della 7, faceva riferimento a Tiziana Ferrari. In effetti è stata reintegrata la decisione del giudice oggi, il prossimo passaggio probabilmente il giudice deciderà anche in prima serata se andrà la signora Fletcher o il tenente Colombo, può darsi a decidere, beh no, perché sul reintegro naturalmente è una decisione del giudice, per l'amor del cielo. È la cosa interessante, che dice che deve rientrare nella conduzione del TG delle 20, che è una cosa piuttosto specifica, chissà se Minzolini poi sarà costretto, o torto collo naturalmente dal suo punto di vista, a reintegrarla. Però abbiamo l'audio, ed è per questo che siamo entrati così, della Tiziana Ferrari. Sentiamo come commenta lei la decisione. Il Tigiun è sempre stata una redazione dove ricca di identità culturali diverse, ci sono sempre stati momenti di confronto anche altro, ma alla fine si è sempre trovato un accordo e il prodotto che usciva era un prodotto nel quale tutti noi ci riconoscevamo. Con Minzolini non è stato più così, non è stato più possibile discutere attorno a un tavolo tutti insieme su quale linea editoriale dare al giornale, soprattutto non è stato più possibile dare tutte le notizie nel modo corretto. Ecco, così abbiamo detto anche questa. 800 24 00 24, torniamo agli ascoltatori. Fabio dalla provincia di Salerno, buonasera. Buonasera a lei, complimenti per la trasmissione, perché sta sostituendo Cruciani alla grande. Cruciani, a mio avviso, stava diventando un po' l'Emilio Fede di Radio 24. Quindi... Ma no, ma no. Forse una battuta esagerata, però. L'importante è che continuate a seguire sempre la Zanzara, sempre Radio 24, sempre di più, perché insomma noi lavoriamo tanto per piacervi. Prego. Perfetto, senta, il mio intervento era riguardo il PD e la crisi del PD, le solite voci che vanno una da una parte e una dall'altra, oggi Cofferati e Fassino, uno a favore dello sciopero FIOM, un altro invece a favore dell'accordo. Io penso che l'unica soluzione per il PD per riprendere consensi sarebbe candidare come segretario una persona che stacchi con il passato, quindi un esponente della società civile. In effetti, lei qualche suggerimento ce l'avrebbe? Ma secondo me è una personalità forte che non ha mai fatto politica, come Mentana, come Saviano, qualcosa che stacchi veramente con alla faccia Mentana segretario del PD, questo non l'aveva mai detto nessuno. Ma infatti mi sa che finché non ci saranno decisioni coraggiose il PD non potrà risollevarsi, se non approfitta in questi momenti della perdita di consenso della destra, di Berlusconi, anche di Pietro che sta crollando nei sondaggi, non vedo come potrà mai arrivare a vincere le elezioni e quindi tornare al governo. Saviano qualcuno l'aveva proposto come insomma, farsi avanti in politica, lui ha un po' sdegnosamente detto no, non mi interessa, io scrivo. Quando è stato? Ieri sera abbiamo ospitato le opinioni di Vittorio Sgarbi, o ieri l'altro, e qui invece dava un buon giudizio su Saviano e lo invitava invece a non rifiutare l'agone politico, diciamo così, a buttarsi nella mischia, perché insomma tutto sommato se ha delle idee ha anche un seguito. Mi sa che infatti sarebbe l'unico che potrebbe dare veramente entusiasmo, perché cioè, chi si può entusiasmare di fronte a un partito che anche quando veramente che non è entusiasmante, non è un partito, questo non c'è. No, il caso che abbiamo tirato in ballo anche noi questa sera su Pomigliano, sulla firma di oggi, già i giornali di oggi ne parlavano, con tutti gli esponenti del PD, a ognuno in una direzione diversa, insomma in effetti è un coro a volte incomprensibile. Tra l'altro in questo momento in cui il PD potrebbe riprendere i consensi che aveva perso a favore di Pietro, visto che Di Pietro sta al 4% oramai nei sondaggi, De Magistris lo attacca. Beh, insomma, Di Pietro al 4% mi sembra un po' poco, gli ultimi sondaggi lo danno sicuramente in discesa. Va bene, poi va tra bene. L'altro dopo De Magistris che sta attaccando, mi sa che il partito pure di Di Pietro si stia un po' sfaldando. Comunque speriamo che arrivi qualche personalità che possa entusiasmare i delusi come me. Grazie, 20:11, una pausa, rientriamo tra poco. Andiamo a Federico che ci chiama da Belluno, buonasera. Buonasera. Io ho chiamato per portare la mia esperienza di lavoratore di fabbrica. Lei dov'è che lavora? Io lavoro presso la Luxottica. Sì. Il stabilimento di Agordo, la famosa fabbrica che produce occhiali di marca, sì, del vecchio. Ecco. E voleva intervenire su cosa? Su Pomigliano? Esatto, volevo proprio intervenire su Pomigliano. Praticamente la mia idea è questa, che secondo me al giorno d'oggi i sindacati dovrebbero fare un passo indietro o comunque cambiare la loro mentalità. perché parlano sempre di diritti, però si dimenticano sempre la parola fondamentale che è meritocrazia, quello che al giorno d'oggi in questo paese sicuramente manca, perché a mio parere i sindacati sono rimasti a 15-20 anni fa, dove comunque il datore di lavoro, sì, comunque l'imprenditore è sempre visto come una figura da andare contro, sì, una figura con cui bisogna andare a scontrarsi e non invece una figura con cui bisogna lavorare insieme per produrre ricchezza sia per lui che ci dà lavoro sia per noi che... Ma certo che nelle imprese piccole è più, questo ragionamento è più facile, in quelle grandi è meno facile. Io non so la Luxottica dove lavora lei che dimensioni ci sia, però quando, guardi, si tratta di imprese... Le dico subito, sì, Luxottica è il primo produttore mondiale di occhiali, certo. Abbiamo stabilimenti, abbiamo 4-5 stabilimenti, produciamo gli occhiali di marca maggiore, Bulgari, Dolce Gabbana, eccetera, eccetera, eccetera. E io parlo da operaio, ma operaio semplice, però... Comunque, insomma, lei non avrebbe dubbi, se si ponesse il caso anche nella sua azienda, lei direbbe sì all'accordo e eventualmente al referendum voterebbe sì. Perché in un momento di crisi economica come questa, dove comunque la gente, certo, deve lavorare, perché per far ripartire l'economia la gente deve rimboccarsi le maniche. Prima sentivo il signor Bonanni, credo, che parlava... No, Cofferati abbiamo ospitato. Mi scusi, sì, che diceva che si è tornati indietro i 50 anni a Valletta. Sì, però si dimentica che 50 anni fa la famiglia Agnelli, comunque facendo così, ha fatto grande la Fiat e ha fatto grande comunque le famiglie italiane, perché lavorando alla Fiat, lavorando con quei sistemi lì, la gente si poteva permettersi di comprare una macchina, di comprare una casa, di cominciare a fare le ferie due volte all'anno, capisce? E ripeto che io sto parlando da operaio semplice, però con una famiglia che ha un'impresa commerciale, un bar, un'attività, e quindi so le fatiche e le spese che si possono avere nel piccolo. E purtroppo, secondo me, in questo momento la gente è stata abituata troppo bene, quindi dovrebbe fare tutti quanti una marcia indietro, rimboccarsi le maniche e cercare di far ripartire l'economia di questo nostro paese, che comunque ha molte, molte potenzialità, molto grandi anche. Grazie, grazie. A lei. 20:15, facciamo il traffico, rientriamo tra pochissimo. E allora sentiamo Mario che ci chiama da Salerno, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Mi chiamo da Bacani, provincia di Salerno. Sì. Niente, una mia domanda da campano, no? Meglio dire da meridionale, sì, che ho un napoletano tra virgolette, perché faccio di prefisso 081. Niente, riguardando ai rifiuti di Napoli, no? Sì. Allora, da anni Bassolino automaticamente ha avuto tutta la gestione dei consorzi, eccetera, e via discorrendo. È anche inquisito. È anche inquisito Bassolino. Sì, appunto, sì, è anche inquisito. Però sì, nulla a togliere, noi abbiamo dato colpa a Bassolini, non sono né di sinistra né di destra, però vorrei capire perché Napoli, perché questo problema esiste a Napoli, non esiste a Salerno, non esiste a altre città della Campania, perché Napoli? Allora, la Camorra dove sta? Quello vorrei capire. Dove sta? Non è di centrodestra o di centrosinistra. La vera Camorra, la vera, non so come spiegarvi, non so, c'è qualcosa. Se non lo sa lei automaticamente che... Berlusconi viene a Napoli, sì, giustamente dice io faccio questo, questo e questo e non si fa. Poi viene di nuovo, no, anzi meglio dire si è fatto, poi dentro un tratto, un anno si farà tutto da capo, anzi è peggiorata la realtà, addirittura è venuto l'esercito. Allora, sì, ma non vedo cosa c'entra questo col discorso che faceva prima sulla Camorra, eccetera. No, ecco. No, perché qua si parlava automaticamente dei rifiuti tossici, rifiuti, perché proprio Napoli? Non so, questo è una cosa... Ce lo dica lei, perché proprio Napoli? È lei che ha chiamato con questo intervento? Ma io ho chiamato con questo intervento per dire che automaticamente il problema di Napoli lo può risolvere solamente una realtà pulita. Va bene, mi fermo, mi arrendo, non ho capito, ma non importa. Salutiamo Edmondo Cirielli, presidente della provincia di Salerno. Restiamo in argomento. Buonasera. C'è un po' di confusione anche tra i cittadini su questo argomento qua dei rifiuti. Perché... Sentendo effettivamente. Sì. Forse conto. Non solo per la questione dei rifiuti, ci sono magari anche altre ragioni, ma lasciamo perdere. Cirielli, lei credo che esca fresco, non so se è fresco, ma insomma da poco, da un incontro a Palazzo Chigi sulla questione dei rifiuti. Sì. Oggi i giornali titolavano: pressing sulle province campane affinché accolgano i rifiuti di Napoli per risolvere temporaneamente questa situazione. Com'è finito il pressing? Avete accettato? Ma diciamo, noi già stavamo accogliendo ognuno per la sua parte dei rifiuti napoletani. Noi li abbiamo accolti nel nostro centro di lavorazione che si chiama Stirri, in maniera tecnica che sta a Battipaglia, e lo abbiamo lavorato per loro, e di fatto Caserta, Benevento e Avellino hanno le discariche aperte e li stanno accogliendo, quindi ci è stato chiesto di continuare per un'altra settimana. Nel frattempo, grazie all'intervento del Presidente Caldoro e del Presidente Berlusconi, altre regioni, tra cui la Puglia in testa, prenderanno, e Lazio, prenderanno rifiuti da Napoli, e quindi insomma quindi Lazio, settimana, Puglia, ancora le province campane, e questo dovrebbe bastare, forse anche qualche altra regione? Eh sì, qualcosina anche in altre regioni, anche l'Emilia forse. Sì, poi il problema vero è che se non parte la raccolta differenziata a Napoli città, io voglio dire, la mia provincia ha 1.200.000 abitanti, facciamo quasi il 60% di raccolta differenziata. Voi siete una mosca bianca in Campania. No, però siamo quantomeno 1.200.000 abitanti, sono tanti. Sì, ecco, infatti mosca bianca è detto male. Napoli, che ha meno di 1 milione di abitanti, dovrebbe riuscirci, insomma. Ecco, però guardandovi intorno in Campania siete quelli che la fate bene, ma la fate meglio, e a Napoli anche non ce la fanno, perché credo che siano al 12-13%. Sì, sì, anche Benevento e Caserta e Avellino vanno molto bene, per la verità. Caserta così, malissimo Napoli. Però scusi, io non ho capito, in una sua intervista che è oggi su Repubblica, lei dice che sta esportando rifiuti in questo momento, poi dice che non vuole rivelare dove, ma se voi fate la differenziata e addirittura date disponibilità ad accogliere i rifiuti campani, non ho capito, cos'è il gioco delle tre carte? Lei sposta i suoi e accoglie quelli di Napoli? No, le spiego. Noi praticamente il centro di lavorazione dei rifiuti divide frazione umida e frazione secca. La frazione secca noi la mandiamo al termovalorizzatore di Acerra, e la frazione umida la stiamo mandando in altre regioni con un accordo che abbiamo fatto noi a pagamento, ovviamente. Non vale la pena di dirlo, perché sennò si crea semplicemente un'ulteriore polemica, insomma, perché alla fine. Ma in Italia o all'estero? No, in Italia, però. A nord? No, qualcosa al nord e qualcosa al sud. Un po' e un po', devo dire che ho trovato solidarietà bipartisan, ma perché io come provincia ho lasciato libero la quantità che versavo da Avellino e Benevento in discarica, in cambio di un accordo che abbiamo da tempo, che poi Avellino e Benevento porteranno la loro frazione secca nel nostro termovalorizzatore. Quindi però scusi, viene davvero il mal di testa, cioè sintetizziamo in modo che si... Allora, la provincia di Salerno non ha una discarica aperta e versa da Avellino e Benevento, con l'impegno che nel futuro, quando avremo il termovalorizzatore, Benevento e Avellino porteranno da noi a bruciare l'immondizia. Nel frattempo, lo ricordo, il vecchio commissario è stato per 2 anni il sindaco di Salerno e ha fallito, non lo ha fatto il termovalorizzatore. Noi in 7 mesi abbiamo fatto la gara. De Luca, sì. In 1 anno e mezzo verrà costruito il termovalorizzatore. Io avevo l'impegno di poter bruciare per altro 1 anno e mezzo nella provincia di Avellino o Benevento i nostri rifiuti, e invece ho lasciato libero questa possibilità per dare più accoglienza a Napoli, e io o lo porto fuori come sto facendo, o prima o poi dovrò aprire nuovamente la discarica di Macchia Soprana, che ha ancora una capacità di circa 100.000 tonnellate. E ci servirà per andare avanti quell'anno e mezzo. Quindi la solidarietà di Salerno è rinunciare alla sua quota su Avellino e Benevento. Ho capito, è un po' confuso, ma ho capito. Senta, io però pensavo che invece lei con De Luca andasse d'accordo, invece lei dice ha fallito, perché credo che gli abitanti di Salerno sulla questione dei rifiuti, visto come vanno male le cose a Napoli e anche in altre zone, tutto sommato non si lamentino. Sì, ma guardi che Salerno ha 120.000 abitanti su 1.200.000 abitanti. La città di Salerno ha iniziato la raccolta differenziata nell'agosto del 2008, anzi luglio 2008, quindi da 2 anni. Però fa la sua parte. Adesso fa la sua parte e la fa anche bene, onestamente non ho nulla da ridire. Dal 2008 sono partiti con la raccolta differenziata e si sono messi in linea col resto della provincia, che viaggiava intorno al 60%, quindi anche Salerno, che era l'ultima parte che non la faceva, adesso la sta facendo bene, e tutti quanti siamo. Però il problema che noi abbiamo denunciato è che i comuni non usano la TARSU non, cioè la tassa sulla tariffa dei rifiuti, non per pagare i servizi dei rifiuti ma per fare altre cose, così che c'è un grosso indebitamento che sta colpendo anche Salerno, e anche Salerno rischia di avere una crisi dei rifiuti perché ci sono i dipendenti, i lavoratori del settore che stanno lavorando da mesi con stipendi. Certo, questo è un problema e questo in effetti è quello che poi ha bloccato le cose anche a Napoli nei mesi scorsi. A Napoli c'è stato questo problema accompagnato dal fatto che non fanno da altri problemi. Certo. Senta Cirielli, le vorrei chiedere così direttamente, dato che nelle settimane scorse il ministro Carfagna ha minacciato le dimissioni, in ballo c'era anche proprio la questione della realizzazione dei termovalorizzatori, e lei sembrava, quello che abbiamo capito perché è stata insomma raccontata più da retroscena che da dichiarazioni ufficiali, essere preoccupata della possibile gestione dei presidenti delle province, fra cui anche lei, di questa realizzazione. Voleva che andasse a Caldoro. C'è un dissenso tra lei e Caldoro? Perché questa questione? Guardi, in questo momento sono nella stanza del presidente Caldoro, con il quale io vado perfettamente d'accordo, anche perché quello che ha fatto tutto nel settore dei rifiuti nella mia provincia è l'assessore Giovanni Romano, che fino a qualche mese fa era assessore provinciale all'ambiente, adesso è l'assessore regionale all'ambiente di Caldoro, quindi la stessa persona che lavorava per me adesso lavora per Caldoro, quindi andiamo perfettamente d'accordo. E allora perché questa questione che ha sollevato la Carfagna, che è stata piuttosto grossa, non è che una vicenda interna al partito e si è strumentalizzata la polemica esterna, per quanto mi riguarda. Ma erano sbagliati quei retroscena che si leggevano che lei si opponeva ad una gestione che poi, se non sbaglio, alla fine il decreto ha dato una cogestione ai presidenti delle province e a Caldoro? Cioè non a me dava fastidio il principio. 8 mesi fa il governo ha fatto il Parlamento ha approvato una legge che mi dava la competenza a fare il termovalorizzatore. In 8 mesi ho fatto la gara d'appalto regolarmente, a differenza di altre province che non l'hanno fatta, a differenza del commissario che ha avuto 2 anni e mezzo di tempo, quello che stava prima di me, De Luca, e non l'ha fatto. Mi aspettavo un grazie e non che si mettesse in dubbio addirittura anche la mia moralità, perché notoriamente io sostengo il coordinatore regionale Cosentino politicamente, ma anche perché non l'ho nominato io, l'ha nominato il Presidente del Consiglio, mi sembra giusto sostenerlo, siccome lui ha quell'accusa relativa alla Camorra, senza dirlo, perché non lo si può dire, perché io non sono neanche mai stato indagato in 15 anni di attività politica, si fa trasparire che ci potrebbe essere non un legame politico ma chissà cos'altro, e allora mi sono arrabbiato per la questione formale. Sul piano sostanziale io ho piena fiducia del Presidente Caldoro, e per quanto mi riguarda non ho alcun interesse a gestire un bel niente, anche perché il termovalorizzatore non viene fatto con soldi pubblici, cioè non è una gara d'appalto e uno si divide i soldi dell'appalto, ma i soldi ce li mettono i privati e saranno ditte importantissime o del nord Italia o del nord Europa, quindi anche la possibilità di gestione illegale mi sembra assolutamente ridicola, anzi tutto sommato ho responsabilità più pregnanti adesso nel trasporto dei rifiuti, nella gestione delle discariche. Voglio dire, se fossi un imbroglione sarei molto più attento a quest'altro aspetto, no? Sì. Lei va veloce con la lingua, la fermo un attimo perché sennò... Prego. Quando lo realizzate allora questo termovalorizzatore? C'è una data? Il 31 gennaio da noi scade il termine per la presentazione delle ditte che faranno insomma la loro offerta e nel giro di un mesetto si valuterà insieme alla regione chiaramente qual è l'offerta migliore. Dopodiché nel giro con il processo accelerato messo in campo dal decreto legge e grazie anche al Presidente, ci dia una buona notizia e la prima, secondo me, io dico tra un anno e mezzo, due massimo, il termovalorizzatore Salerno sarà in funzione. Sarà in funzione, quindi diciamo l'inizio dell'opera, la posa della prima pietra potrebbe essere prima dell'estate, secondo me entro il mese di giugno. Va bene, torneremo la teniamo d'occhio per verificare. Mi aspetto che allora mi si dica bravo, non mi si dica che sono amico dei camorristi. Io per questo ho messo la deadline, la scadenza, capito? Perché se lei la rispetta, allora sarà facile per noi dire bravo. Se non la rispetta, diremo che non è stato bravo. Però Cirielli, aspetti, perché l'abbiamo chiamata anche per un'altra cosa. Sì. È vero che lei vuole fare il Principato, la storia del Principato? No, diciamo che l'articolo 132 della Costituzione prevede che territori più grandi di 1 milione di abitanti possono chiedere di costituire con un referendum una nuova regione, se i consigli comunali che rappresentano un terzo della popolazione ne fanno domanda. Attualmente, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, più di un terzo dei consigli comunali, che indubbiamente sono legati politicamente a me, hanno fatto questa domanda. Quindi ma l'hanno già fatta la domanda? Hanno già presentato alla Corte di Cassazione. Alla Corte di Cassazione, quindi non è una buttata la sua? No, è la prima volta che capita nella storia della Repubblica. In giugno si dovrebbe tenere questo referendum, voglio dire che si chiamerà Regione del Principato di Salerno. Si chiamerà, lei parla al futuro con l'indicativo, mi sembra un po' ottimista, insomma. Lei crede davvero che andrà in porto? Mi scusi, ma con tutti, adesso non vorrei usare una parola, cioè i casini che ci sono da quelle parti. Ma il problema, sa qual è che il nostro territorio è stato per tutta la storia d'Italia una regione dal punto di vista giuridico, anche nel regno delle due Sicilie. Ma a che serve il Principato, Cirielli? A cosa serve il Principato di Salerno? Serve a impedire che la provincia di Napoli assorba i finanziamenti europei e l'IRPEF regionale e l'IRAP e non le spende per il territorio, perché purtroppo è un dato di fatto, annualmente destra e sinistra che hanno governato la regione Campania, penta partito prima, hanno sempre fatto trasferimenti inferiori addirittura di 150 milioni di euro all'anno rispetto a quello che la zona della provincia di Salerno versa alla regione Campania. Lei si candida come principe, allora? No, se facciamo il principato, lei sarà il principe. No, assolutamente, io le posso dire che nonostante non apprezzi il modo di governare De Luca, sarei disposto persino a votare De Luca pur di ottenere vede che c'era una liaison tra lei e De Luca, io lo sospettavo che tutto sono preoccupato che la nostra provincia viene rapinata dalla regione Campania e non vengono restituiti, nonostante che oggi abbiamo non sono al corrente di questa questione, quindi non posso dire la mia, intervenire se c'è una questione di fondi, però insomma la questione del Principato fa un po' sorridere, Cirielli, sinceramente. Però c'è una questione di storia, questa zona è stata sempre autonoma anche nel regno delle due Sicilie. Ma l'Italia è piena di zone autonome, non possiamo fare una regione per ogni, dovremmo risparmiare, abolire le province addirittura. Serve per risparmiare, perché farebbe modo di concentrare i fondi direttamente là dove vengono prodotti. Senta Cirielli, lo sa cosa pensano gli ascoltatori quando lei dice che questa cosa serve per risparmiare? Pensano di no e fanno le facce strane perché è difficile crederle, mi creda. Sì. A me mi interessa quello che pensano gli abitanti della provincia di Salerno. Ma questo è giusto. Vada a fare qualche domanda ai cittadini a caso, di destra e di sinistra, e vedrà, abbiamo fatto i sondaggi, che oltre il 90% da sempre mal sopporta questa vicinanza con Napoli. D'altro canto tutti i guai che stanno capitando a Napoli confermano che noi abbiamo ragione, che purtroppo non abbiamo nulla a che spartire. Questo è un dato storico. Nel 47, quando si sono fatte le regioni, nella Costituente, Salerno fino alla fine si è battuta per avere una sua autonomia, che ha sempre avuto e che purtroppo alla fine anche alzo le braccia, l'aspettiamo a giugno per il termovalorizzatore, questo sì, grazie, buona serata Edmondo Cirielli. 20:31 Borsa, rientriamo tra un attimo. 20:34 titoli del TG2. Fiat, nuovo contratto per Pomigliano, via da Milano alle assunzioni, il ministro Sacconi ha vinto il pragmatismo, la FIOM contro l'azienda proclama uno sciopero di 8 ore. C'è già una pista per i due ordigni fatti esplodere contro la sede della Lega a Gemonio, decisive le immagini delle telecamere, Maroni, Vigliacchi, non ci faremo intimidire. Berlusconi ottimista sul futuro della legislatura, tanti finiani torneranno con noi, poi sui rifiuti a Napoli dice qualcuno ci ostacola ma si risolverà e Gianni Letta annuncia Capodanno pulito. Inchiesta del TG2 sui beni immobiliari a Napoli e non solo, della regione Campania, tra assegnazioni e fitti di favore. Nella prima puntata il rapporto denuncia della Commissione Trasparenza. È morta a soli 28 anni la modella e attrice francese Isabelle Caron, malata di anoressia. La sua immagine nelle foto di Toscani aveva sollevato molte polemiche. In tempo reale, Repubblica.it, il sito online di Repubblica, Berlusconi contro le congiure, molti di Futuro e Libertà torneranno con noi, il Presidente del Consiglio al telefono con un'assemblea di militanti del PDL a Napoli, ottimista sull'esecutivo, andremo avanti bene, altri ordivano complotti e noi lavoravamo. I rifiuti a Napoli, dice Berlusconi, qualcuno vuole dimostrare che il governo non fa nulla, in qualche mese risolvo tutto. E staremo a vedere. E adesso però invece cosa facciamo? Sentiamo gli ascoltatori che sono molti in attesa, 824-0024. Cominciamo con Giorgio che chiama da Roma. Buonasera. Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori. Guardi, trago spunto dall'intervento che ha fatto l'ascoltatore poco fa, che parlava da sinistra. Si può parlare un po' più forte perché sennò non la sentiamo. Prego. Che parlava da sinistra e poi mi torna anche molto utile il lungo intervento che ha fatto il presidente della provincia di Salerno, se ho capito bene. Sì. Perché francamente è la miglior cartina di tornasole per capire come mai molti dei ragazzi che negli anni 70 militavano nella destra dell'allora Movimento Sociale Italiano non si rivedono assolutamente nel berlusconismo. Noi, e non posso dire noi perché chiaramente ero simpatizzante, avevamo degli ideali. Francamente, gli ideali per i quali sono. Senta, proviamo a ricontattarla, non si sente quasi nulla, abbiamo capito poco del suo intervento, quindi proviamo con un altro numero oppure niente. Marco da Imperia, buonasera. Buonasera a lei. Un saluto buonasera anche al suo predecessore Cruciani, sì, che noi tengo affatto essere una persona appiattita su posizioni di Berlusconi, semmai non era appiattita totalmente sulle posizioni di una certa sinistra. Veniamo comunque alle ragioni dell'intervento. Sì. Riguarda le posizioni di Cofferati, che dice che siamo ritornati ai tempi di Valletta, ricordiamoci, come ha detto anche l'ascoltatore mal preceduto di Agordo, che ai tempi di Valletta la Fiat era grande e produceva posti di lavoro. Io ho vissuto studiando a Torino negli anni 70 la famosa marcia dei quadri intermedi, e questo è il risultato di un certo strapotere dei sindacati e della FIOM in prima persona. No, questo e cosa? Non ho capito. La marcia è il risultato, però mi sembra che siamo un po' indietro con gli anni. Invece, no, parlando di oggi? Di oggi dico che... se in un mondo globalizzato in cui l'offerta del lavoro va ricercata su base mondiale, o noi ci adeguiamo a determinati standard quantomeno presenti in Europa, o non ci lamentiamo se determinate fabbriche chiudono e delocalizzano. Quindi facciamoci un attimino un esame di coscienza, come diceva prima l'ascoltatore di Agordo, che è un operaio, io sono, sì, un imprenditore e mi trovo a... Fino ad ora è un po' il tono dominante degli interventi su questa questione, direi. Cosa? No, dico, fino ad ora questa sua posizione, ma anche come l'ascoltatore precedente o quello sardo, è un po' il tono dominante degli interventi su questo argomento. Un'altra, sì, cosa ancora, ecco, sì, attenzione a queste assemblee, permessi sindacali e quant'altro, ce n'è stato un abuso per cui un sindacalista diventava qualcosa di intoccabile, di non si poteva spostare, non si poteva, aveva solamente i diritti. La reciprocità nei rapporti interpersonali, nonché di lavoro, è il pilastro su cui far lievitare e costruire qualcosa che abbia qualche chance di durare nel tempo. E da ultimo, e poi concludo, facendo un appunto al via vai che sentivo prima del futuro principe di Salerno, sì, mi auguro innanzitutto che non si faccia l'ennesima, sì, regione o macro provincia in un momento in cui dobbiamo, è una cosa assurda, abbastanza assurda, sì, qualcuno, sì, ha la brillante idea di infilare un bel po' di persone in qualche posto pubblico nuovo. E c'è un gruppo di una grossa cooperativa di vendi di commercio al dettaglio che faceva la propria bandiera sulla filiera corta degli alimenti e di determinati prodotti. Poi invece assistiamo alla scena che rifiuti viaggiano da un capo all'altro dell'Italia per dell'Europa. Sì, sembrava un po' il gioco delle tre carte quello che ci raccontava Cirielli. Sì, che ma mi sembra... sposto di qua, lo metto di là, lo mando su, lo mando, sì, giù. Sì, infatti, poi voglio dire, non so se forse c'è anche paga una questione di... A parte, esatto, poi di... ho detto una cosa che da amministratore pubblico, in quanto, sì, ricopro un ruolo di consigliere in un comune appunto della provincia di Imperia, nonché di presidente di quel consiglio, non mi risulta che si possano spostare quanto viene versato ai cittadini come TARSU a altri capitoli di spesa. Vabbè, ma questo diciamo è un po' un tecnicismo. È un po' un tecnicismo, lasciamo perdere. Grazie comunque al suo intervento. Oscar da Padova, buonasera. Sì, buonasera, sono sì. Oscar. Dottore, io volevo che facesse un po' il Cruciani, contrariamente a quanti la elogiano, nel senso che volevo il suo parere. Sì. Io sono un responsabile d'azienda, sì. Lavoro in una grande distribuzione e ho a che fare tutti i giorni con responsabili piuttosto che rappresentanti sindacali. I rappresentanti sindacali di oggi, questa è solo una premessa per allacciarmi al discorso di Pomigliano, all'accordo Fiat fatto oggi. La premessa è che il sindacato oggi e con i suoi rappresentanti, parlo per la mia esperienza, è essenzialmente inutile, sterile, non costruttiva dal mio punto di vista. Per quello lo che pensano in moltissimi ormai in Italia, quasi tutti pensano questo, ed è questo uno dei problemi del sindacato, recuperare credibilità. Quindi questa di oggi, la situazione attuale, secondo lei è un autospot per rilanciare un pochettino il... Cioè, lei dice la Fiome si è autoesclusa per fare un po' la vittima, diciamo, e rilanciare il suo protagonismo, questo le sta dicendo? O ho capito male? No, non parlavo della Fiome, parlavo di un senso di responsabilità da parte di CGL e CISL e UIL, non so adesso all'interno... Beh, perché vanno fatte delle distinzioni, perché CISL e UIL hanno firmato e la Fiome no. Quindi okay. A chi si riferisce lei quando dice un autospot? Firmato? Fa un autospot, quindi dice ok, faccio un... effettivamente ho un senso di responsabilità, quindi mi rimetto in gioco nel mercato. Cioè lei dice hanno firmato oggi... magari non credendoci del tutto, però pur di apparire come modernizzatori. Esattamente, perché effettivamente quello che serve oggi è una collaborazione costruttiva, perché effettivamente il periodo, la crisi... Questo può darsi, però non lo chiamerei spot allora, è una decisione che CISL e UIL hanno fatto di aderire alla proposta di Marchionne per fare un passo conciliante. Non lo chiamerei spot, non so. Per prendere un po' di consenso in più, forse, non lo so, per rilanciarsi, diciamo così, secondo me. Cioè, secondo me, questa è la. Volevo sapere il suo di parere, volevo che facesse il Cruciani in questo senso. Sì. No, grazie, io la deluderò, non farò il Cruciani. E quello che io ho detto su Landini, che secondo me ha usato parole un po' di routine, lo sciopero, va bene, 8 ore, per l'amor del cielo, è un diritto sacrosanto. È importante lo sciopero, però non mi sembra che di fronte a una questione così dirimente, almeno per come la vive la FIOM, annunciare 8 ore di sciopero non mi sembra che abbia detto niente di particolarmente significativo, così come parlare in termini di un atto antisindacale o antidemocratico mi sarei aspettato, e secondo me molti cittadini si aspettano parole più concrete anche dal sindacato, dal sindacalista, sulle condizioni poi dei lavoratori. Alla fine sembra quasi che non si sappia nel merito della questione qual è la posizione della FIOM, anche se qui forse ho esagerato, perché basta leggere qualche giornale, forse alla terza domanda ci sarà anche una risposta su questo. 20:44, andiamo con Mario da Torino. Buonasera. Salve. Finalmente gli arrivano telefonate in controtendenza rispetto a quelle che avete mandato fino adesso in onda. Allora, la Fiome ha ragione. Oltre alle questioni materiali della vita delle persone che porta a questa situazione, il problema è l'antidemocrazia di questo tipo di accordo, che non permette più a chi non firma di partecipare comunque ai rapporti sindacali, ma questo è l'eliminazione del dissenso. Abbiamo protestato tanto, si è protestato tanto contro la mancanza di libertà del dissenso nelle società dell'est europeo in passato, e adesso il dissenso viene cacciato dalle relazioni sindacali. Ed è un problema politico, perché Falasse, con quello che ha fatto in qualche modo la riforma della Gelmini dell'università, nel senso che cosa ha detto la Gelmini appena approvata la legge? Abbiamo cancellato il 68, quindi è una questione ideologica, Io sono uno che ha fatto il 68 e non me ne pento assolutamente. Abbiamo portato delle grandi riforme in conseguenza di quelle lotte, le riforme delle strutture dei lavoratori, la riforma sanitaria nazionale, il nuovo diritto di famiglia, i diritti per i lavoratori e lo studio per tutti. Io non mi vergogno di queste cose. Ora sono due telefonate che parlano tutti in senso contrario. Credo che se vogliono tornare a certi livelli di situazione, bene per loro, ma io non mi pento di queste cose. No, no, ma guardi, lei non si deve pentire del suo passato. Quello che, no, dico, lei non si deve pentire del suo passato. Quello che mi sembra però che emerga da molti interventi è un realismo di fronte alla... Forse sono anche questi due anni di crisi economica che abbiamo alle spalle, che ci fanno pensare che tutto sommato l'offerta di Marchionne va saputa cogliere, bisogna trattare, trovare la sintesi, trovare tutto quello che si vuole. Però il senso mi sembra questo, non che... Se posso dire, no? Sì. Ma quello che non si rendono conto, secondo me, che il tempo è il dato politico. Cioè, i tempi sono cambiati rispetto a quello a cui faceva riferimento lei. Agli anni 60, 70, adesso ci sono altri tempi, altre condizioni, altre scelte da fare. Ecco, questo mi sembra. Grazie. Comunque, abbiamo il traffico. 800 24 00 24, ancora uno scorcio di trasmissione per intervenire in diretta. Silvio da Venezia, buonasera. Buonasera dottore. Prego. Buonasera. Io volevo un attimo tornare sull'onorevole Cirielli, mi sembra che Cirielli, no? Edmondo Cirielli, sì, presidente della provincia di Palermo, di Salerno. Esatto. Vabbè, io non abito a Napoli da 24 anni, vabbè, faccio un lavoro che io porto rifiuti speciali, no? Quindi sto sempre sul cambio. Volevo dirgli... Adesso poi però mi deve dire anche cosa ne pensa della tracciabilità, la esatto, questione della Prestigiacomo, però me lo dice dopo. Certo, infatti io ho sentito l'altra sera, perché sono sempre su questa radio, che lei voleva sapere del Sistri, cos'era il Sistri. Vabbè, magari dopo torniamo sul fatto. Sì, prego, prego, prego. Ecco, allora, dottore, volevo capire l'onorevole... Che oggi c'è stato, mi sembra, la riunione sui rifiuti per quanto riguarda Napoli, no? Ma Salerno si poteva anche tirare indietro, no? Visto che lui ha detto che Napoli gli sta creando un casino di problemi, ma lui si poteva anche, visto che c'è sempre stata una certa rivalità tra Napoli e Salerno, non lo so perché, poi è andato sul Principato, che si faccia il Principato, che lo faccia. Non lo so, che faccia il Principato di Salerno. Allora andiamo. Ma guardi, che lo faccia o non lo faccia, comunque rispetto a Napoli è già un'entità staccata, no? Dopodiché. Infatti, Napoli nell'Ottocento era capitale d'Europa, ma Salerno dov'era? Voglio dire, cioè, ci siamo dimenticati ormai i Vivaldi, voglio dire, quello che Napoli ha avuto la sua storia e quello che ha ancora. Adesso con questo problema, che poi, per l'amor di Dio. Non gli do torto, ci mancherebbe, lì politicamente è gestita male, Napoli si sa, anche il napoletano ci si mette anche lui, per l'amor di Dio, però che vuole staccare, vuole fare un principale che Napoli gli sta creando dei problemi, mi deve dire quali sono questi problemi che Napoli sta creando a Salerno, quali? Che il Napoli è secondo in classifica e che la Salernitana è in Serie C, non ho capito, mi dica quali sono questi problemi. Non lo so, richiamiamo Cirielli. Non mi fa spiegarlo però l'onorevole. Lui ha detto che la questione è che io non sono in grado di verificare che Napoli accentra gli stanziamenti che arrivano di risorse economiche e non li distribuisce alle altre province, non so se questo sia verificabile. Secondo l'onorevole, allora queste cose le fanno parte, le prenderanno poi i cittadini napoletani, secondo lui. Perché non. Allora, visto che c'è stata la riunione, parlava al consiglio della riunione che c'è stata, ne parlava di questi fondi, dove vanno a finire. Io non credo che vanno a finire nelle tasche dei napoletani. Guardi, io ripeto, 24 anni che non abito più a Napoli. Senta, ma sulla questione dei rifiuti, lei che trasporta rifiuti speciali, sì. La tracciabilità che voleva fare la Prestigiacomo, secondo lei va fatta o non va fatta? Telematica? Allora, noi abbiamo già tutto sui mezzi, già abbiamo montato tutto, che partirà poi, doveva partire in gennaio, c'è stata la partirà in giugno il tutto. Però dice che lì si può truffare, lì si può falsare, perché sulla carta uno falsa, invece se è una chiavetta elettronica certo. No. Qui è tutto tramite USB, collegato tutto ai vari ministeri, tu inserisci la chiavetta USB, viene tutto registrato, tra l'altro... Sanno tu pure la posizione, perché noi abbiamo anche il tratto che dobbiamo fare obbligato. Quindi, perché ci sono le lobby di imprese, si dice, che sono contrarie a questa tracciabilità? Ma Dottore, lei non so se ha letto l'ultimo libro di Saviano, quindi lo dice anche Saviano, che questa qui, per quanto riguarda l'immondizia, è 15 volte, gli introiti sono 15 volte superiore alla cocaina, quindi si immagini un po' lei che possa, che ci può essere dietro. Quindi meno controlli ci sono, meglio è, questo è il senso. Va bene, grazie per il suo intervento. Chi sentiamo? Carlo da Brescia, buonasera. Buonasera. Prego. Innanzitutto complimenti davvero per la conduzione della trasmissione. Io chiamavo perché in uno degli interventi precedenti si è parlato della questione del segretario del PD, dicendo che poteva essere Saviano, poteva essere Mentana. Con grande rispetto parlo di queste persone, però io sono un militante del PD che assieme ad altri ha votato Bersani, che è stato eletto attraverso le primarie degli iscritti, poi le primarie degli elettori, eccetera. Io non credo che la società civile possa guidare un partito se prima non fa esperienza politica. E lo dico perché questa canea sulla società civile, che rispetto, e tra l'altro io faccio il libro professionista nella vita, quindi vivo del mio lavoro, ormai sta diventando una sorta di società dello spettacolo o dell'avanspettacolo che si butta in politica, pretendendo di dirigere all'esterno i partiti, e nel caso del PD la vicenda Vendola credo lo sia emblematica, ma come se fossero degli accampamenti di Novali in cui uno arriva, pianta la tenda, e non si considera che tra un'elezione e l'altra la politica non va in ferie, e c'è chi un partito lo tiene in piedi, fa gli iscritti, le tessere, il volantino, eccetera. Sì, quello che lei dice io capisco, però insomma è lo spettacolo che è stato offerto dagli stessi dirigenti del Partito Democratico, con tre segretari in 2 anni che si sono succeduti, tutti alle prese con difficoltà interne. Questo credo che poi metta voglia del Papa politica, Nero, come si dice. C'è un problema di linea politica che credo sia palmare ed evidente a tutti, e lo insegnano le posizioni sulla vicenda di Pomigliano. Quel che voglio dire è che però il PD, assieme ad altri partiti, ma forse in modo più significativo di altri, è comunque un partito che ha dimostrato attraverso le primarie e i meccanismi di elezione del proprio gruppo dirigente che è un partito democratico davvero. Non so se è... cioè, per me questo è un elemento di pregio, al di là del fatto che poi per difficoltà politiche si debbano cambiare 3 segretari in 2 anni, sono d'accordo, ma c'è una questione di concezione della democrazia che per me va assolutamente difesa rispetto al protagonismo, alla società dello spettacolo, ai nomi che circolano come se fossero santi salvatori, eccetera. È un po' una tendenza, difesa, lo so di essere un po' settario su questo, per difesa dei militanti, degli iscritti. Cioè, va bene, insomma, lei chiama... Penso come di avere il diritto di scegliersi i propri dirigenti, non so se è chiaro. Sì, sì, sì, va bene, è un intervento un po'... come dire, tutto orientato a questioni di partito, però insomma va bene. Roberto da Cesena, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Ma io volevo porre l'attenzione sulla questione dei rifiuti di Napoli e mi chiedevo e volevo chiedere a lei come mai nessuno parla del sindaco e del vero problema, cioè tutti si sono concentrati sull'operato di Berlusconi, che è intervenuto solo per un'emergenza e per risolvere l'emergenza, quindi non alla base ma solo in un periodo transitorio, e mentre il vero problema è sotto, cioè è il fatto che Napoli non fa la differenziata, eccetera. Nessuno chiama in causa il sindaco Iervolino, nessuno ne chiede le dimissioni, piuttosto si chiedono le dimissioni a Berlusconi perché avrebbe fallito, ma cioè, lo Stato non è il responsabile dei rifiuti di Napoli, semmai è il sindaco, quindi non capisco. No, questo è vero, il sindaco di Napoli ovviamente ha delle responsabilità come le hanno tutti quelli che l'hanno preceduta, questo è verissimo. Perché si parla sempre solo di Berlusconi, che ha fallito, che ha detto che risolveva, non ha risolto, lui ha risolto. Questo però se l'è data da solo la risposta, perché nel momento in cui Berlusconi, e questo secondo me è stato l'unico errore che ha commesso su questa vicenda, più volte ha detto risolviamo tutto in 15 giorni, risolviamo tutto in un mese, risolviamo tutto in X giorni, e poi purtroppo tutto non è stato risolto, è chiaro che a quel punto è facile, no, in politica tirarsi le critiche quando si pongono degli obiettivi così. La Iervolino semplicemente questo non l'ha mai detto, certo non è che questo basti a giustificarla, assolutamente, però insomma va bene. 20:55, ancora 3 minuti. Chi abbiamo? Bruno da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Salve, io volevo fare un intervento veloce riguardo a quello che è successo a Gemonio, alla sede della Lega. con sì. l'attentato e l'intervento di Maroni, Vigliacchi, non ci lasceremo intimidire. Ora, sul Vigliacchi siamo tutti d'accordo perché comunque è un atto da condannare. Sul non lasciamoci intimidire, io farei una riflessione, perché effettivamente non mi sembra che si debba parlare di attentati alla casa di Bersani o alla sede principale del PD o all'UDC o a Casini, eccetera. Quindi inviterei piuttosto Roberto Maroni e la Lega in generale ad abbassare i toni e a tornare un po' a quelli che sono i toni normali della dialettica politica. Beh no, però mi scusi, non lasciarsi intimidire vuol dire proprio questo, cioè continuare a fare la propria politica apertamente, perché se no allora la politica la fanno le bombe, cioè uno, io metto una bomba sotto casa sua e così lei da domani sta zitto, non parla più. Di medi, bandiere bruciate, cappi appesi e i milioni di fusili a di là del po', pronti sì. a combattere, a scendere in piazza. Questo è vero. La Lega a volte ha un linguaggio, poi si dice ah ma è folklore, però è un linguaggio che è diverso dall'azione come la bomba carta, è molto diverso, però è un linguaggio a volte che inneggia un po' a, come dice lei, anche ai fucili. Credo che Bossi abbia detto anche qualche sera fa, quando abbiamo un milione di uomini pronti a marciare, eccetera. Sì, a volte si sottovaluta dicendo che è folklore, ma forse sono dichiarazioni che non andrebbero fatte con o senza, anzi senza bomba carta, però non è che ci deve essere un meccanismo di causa o effetto, credo. È già partita la base, quindi vuol dire che siamo out. Allora, Mauro da Bari, Cinzia da Napoli, Andrea da Milano, li sentiamo domani, se loro lo vorranno li richiamiamo per intervenire come sempre domani a partire dalle 18.30. Io ringrazio Viola Bottoni, Giorgio De Luca, Riccardo Poli in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Buona serata, ci risentiamo domani.